citazione di Bernareggi che abbiamo letto ieri. Oggi parla Mario Brozzi, autoctoni e germani tra Adige e Isonzo nel VI-VII secolo, secondo le fonti archeologiche. Cioè, praticamente, Brozzi fa ballare un certo numero di morti e da questo ballo escono delle cose abbastanza interessanti, fra le quali una recentissima scoperta a Maiano in Riviera, verso Gemona, insomma nella parte nord del Friuli, alla porta della Carnia, ma di questo non vi dico niente, anche se so qualche cosa so, perché è un ineditum che non voglio assolutamente togliere come merito e come interesse all'amico Brozzi. Quindi gli do senz'altro la parola perché ti dica quali sono i risultati delle sue ricerche in proposito. Forse era necessario una carta, ma farò passare questa, poi verrà pubblicata negli atti, anche perché devo completare la ricerca per alcune zone del Trentino e del centro, dai Alpi centro orientali. Ritengo opportuno innanzitutto precisare per maggiore chiarezza che l'area geografica sulla quale si svilupperà la nostra indagine archeologica coincide con i territori che appartennero ai ducati longobardi del Friuli, di Ceneda e di Trento, toccando solo marginalmente quelli di Treviso e di Vicenza, la parte settentrionale quindi dell'Austria longobarda. Sulla carta orientativa dei ritrovamenti, che verrà inserita negli atti del nostro seminario, unitamente alle relative schede archeologiche, ho considerato, onde evitare una frattura nella ricerca ed avere così una visione unitaria della situazione, anche i territori di pianura, fino al limes bizantino, compresi tra Ostiglia e Aquileia. Su questo vasto territorio ho cercato di rintracciare, per quanto mi è stato possibile, le presenze archeologiche, talvolta si tratta di modesti indizi, lasciate dai Romani e dai Longobardi tra il VI e il VII secolo. Per i ritrovamenti ostrogoti, ad esempio di Udine, Aquileia e Trento, rimando a quanto Volker Birbrauer ha scritto nel suo Die Ostgotischen Grab und Schatzfunde in Italien, pubblicato dal Benemerito Centro di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto. La presenza di reperti assegnabili alla cultura autoctona e provenienti per lo più da recuperi tombali effettuati su tutto il territorio occupato dai Longobardi dovrebbe indurci non solo ad approfondire il problema dell'eredità archeologica del sostrato indigeno, ma a ricercare anche le località di insediamento di quei nuclei che coincidono solitamente con le antiche sedi di colonizzazione romana. Gran parte del materiale sinora venuto alla luce proviene particolarmente dalla zona segnata dall'arco alpino centro-orientale, dove evidentemente le popolazioni mantennero, più a lungo che in altre parti, costumi e tradizioni. Lo testimoniano gli oggetti recuperati dai sepolcreti, le cui tombe si presentano con una tipologia quasi ben definita. Il cadavere viene deposto in una fossa la cui profondità media va dai 50 ai 120 centimetri, protetta internamente e per tutto il suo perimetro da lastre di pietra o da laterizi, talvolta da una semplice cordonatura di ciottoli e con lo stesso materiale si procede alla copertura dell'inumazione. Sovente anche il piano di fondo appare ricoperto da scaglie di pietra. È stato osservato che il materiale necessario per la costruzione della tomba viene sempre reperito in loco e dove la pietra manca si fa uso di tavelloni in cotto. Nel bellunese si adoperano pietre chiamate laste. Nel territorio collinare a settentrione di Cividale del Friuli le tombe sono suggellate con grandi scaglie di pietra detta piasentina, mentre ad Azzano di Iplis, in provincia di Udine, si ricoprivano le fosse con lastre di arenaria. Nel Goriziano la pietra usata è il saldan locale. A Firmano, presso Cividale, dove inizia la pianura, le inumazioni vengono protette da laterizi. E così nel Trevigiano e nel territorio trentino, dove a Pedersano, ad esempio, si utilizzano lastre di calcare rosso, mentre a Nosan di Lisignano si mettono in opera scaglie di porfido. Al di fuori dell'area da noi presa in esame troviamo sepolcreti con tombe ricoperte da lastre in tutta l'Italia, occupata dai Longobardi, e anche oltre naturalmente, e fino ai territori dei Ducati di Spoleto e di Benevento. Si è osservato inoltre che le fosse in cui spesso vengono inumate più persone, forse appartenenti alla stessa famiglia, non hanno né un preciso orientamento né una particolare disposizione nell'ambito dell'area cimiteriale. Sono modesti cimiteri di comunità cristiane i cui morti vengono sepolti non già con un corredo funebre rituale, ma con qualche particolare oggetto dell'abbigliamento personale, che forse fu loro particolarmente caro in vita. Un'usanza che ancora oggi, del resto, ritroviamo specie in alcune zone ancora culturalmente arretrate dell'Italia meridionale. Dai rilevamenti archeologici a nostra disposizione, possiamo notare che questi nuclei di popolazione autoctona, pur vivendo nei castelli, operano soprattutto nelle zone agricole, raccolti spesso in modesti agglomerati rusticani, dediti evidentemente al lavoro dei campi e all'allevamento del bestiame. Esaminiamo ora alcuni oggetti di ornamento propri della cultura di queste popolazioni. Con una fisionomia tipologica tutta particolare si presentano le fibule della regione trentina, dette appunto di tipo trentino, proprie della popolazione autoctona della Val d'Adige e con ogni probabilità appartenente all'abbigliamento maschile. Sono fibule in bronzo di chiara derivazione romana, il cui arco è decorato da 5 cerchielli disposti a raggiera. A metà circa del corpo trapezoidale si sviluppano, lateralmente ad esso, due elementi a braccio che fanno assumere all'oggetto la forma di croce. L'ornamentazione è quanto mai semplice ed è solitamente data da cerchielli oculati, da linee spesso ottenute con puntini ricorrenti che svolgono elementari motivi geometrici o a doppie linee nastriformi che si intrecciano tra loro. Qualche esemplare ci è giunto munito di una rozza catenella e di alcune perle di pasta vitrea. Tale tipo di fibula, per quanto mi consta, è stata sinora reperita a San Zenone, Vervoi, Cunevo, Valle di Non, Mezzocorona, Zambana, Terlago, Trento, Lenzumo, Enguiso, Pieve di Ledro, Tiarno di Sotto, Villa Lagarina, Sant'Ilario, Rovereto e Manzano. Una più approfondita indagine sono certo che farebbe aumentare il numero delle località di ritrovamento. Pochi gli esemplari recuperati fuori regione, una decina, e precisamente nei dintorni di Brescia, a Corna di Darfo, Darfo, Erbanno, Cogno di Ossimo e nei pressi di Pavia. Un esemplare è stato ritrovato a Traunstein, nella Baviera del Sud. La produzione di questa particolare fibula deve collocarsi al VI secolo, per quanto esse fossero presumibilmente usate anche nel VII. Altra fibula derivata dal costume romano e che ha avuto una più ampia diffusione rispetto a quella di tipo trentino è la cosiddetta fibula a braccia uguali. il cui centro di produzione, stando alle statistiche dei ritrovamenti, sembra doversi ricercare nel territorio friulano, veneto, lombardo. Sono solitamente in bronzo e compaiono già nel VI secolo, come ben testimoniano i cospicui ritrovamenti effettuati nel territorio bellunese in cimiteri di popolazioni alpine. Sono state trovate in gran numero su tutto il territorio compreso tra l'Adige e l'Isonzo. Al sostrato indigeno appartengono ancora le figure ad arco triangolare in bronzo o in bassa lega d'argento a sviluppo trapezoidale, più raramente cilindrico, ornate i vertici da globuletti. La decorazione è semplice e nelle forme note, cerchielli oculati, linee, puntini ricorrenti. Gli esemplari più antichi sembrano essere a tutt'oggi quelli provenienti da Voltago, in provincia di Belluno. La fibula croce è ancora un esempio del patrimonio culturale delle popolazioni autoctone e la sua diffusione, specie nell'Italia settentrionale, deve porsi, penso, tra il VI e il VII secolo. Zdenko Wiski la considera un ornamento femminile proto-bizantino provinciale. La croce può assumere sia la forma latina che quella greca e il centro di produzione deve collocarsi ancora, sempre secondo le statistiche, nel territorio friulano, veneto, lombardo. L'ornamentazione della fibula croce è simile a quella degli oggetti d'ornamento appartenenti alla medesima cultura. Occasionalmente essa compare anche in cimiteri longobardi. Ricordo a tal proposito quella ben nota recuperata nella tomba numero 32 della necropoli di Casteltrosino, recante l'iscrizione posta su due braccia rustica, viva, un bel nome romano. Sono del parere che non sia completamente da escludere che alcune tombe del cimitero marchigiano possano essere attribuite a donne del sostrato indigeno, come sembrano lasciare intendere i rispettivi corredi funebri in esse recuperati, mi sembra così tipicamente romani, donne probabilmente andate spose a militari longobardi. Dobbiamo qui precisare che le fibula croce ritrovate in numerose tombe della Slovenia, della Dalmazia e in alcune località dei Balcani non furono importate dall'Italia settentrionale, ma formano un prezioso elemento dell'eredità funeraria di quelle popolazioni romanizzate. Una variante della fibula croce è la crux gammata, e notevoli per il loro stato di conservazione sono gli esemplari che provengono da Voltago e in Friuli da Marignana. Anche le molteplici fibule zoomorfiche raffiguranti pavoni, colombe, galli, cervi, eccetera, sono da considerarsi, oltre che simboli cristiani, oggetti che derivano la loro origine da motivi tardo antichi e devono perciò essere posti in relazione con la cultura delle popolazioni romanizzate. Tale tipo di fibula, in bronzo o in argento, è presente nel territorio friulano ad Envillino e Aquileia, nel trevigiano a Parec, Agordo, Calzone, Tarso e Vittorio Veneto, nel veronese a Negrar e nel territorio trentino a Torrano di Pedersano, Mecchel e Lanza di Rumo. 7 esemplari di fibule zoomorfiche, di cui solo una in bronzo, sono presenti in altrettante tombe femminili della necropoli longobarda di Casteltosino e una in quella di Nocera Umbra. Perdonatemi, ma ho sospetto che anche in queste sepolture siano state tumulate donne del sostrato indigeno. Un ultimo tipo di fibula in bronzo, pur essa di derivazione romana e appartenente alla cultura autoctona, è quella a disco, presente ad esempio a Parec e Frassinè nel bellunese, a Brez, Cuneo, Spre, Locca nel Trentino e in Friuli a Envillino. Quest'ultima ha una decorazione a cerchielli oculati. Un ornamento femminile proprio della popolazione romana è l'orecchino in bronzo, talvolta in argento di bassa lega, con globulo poliedrico ornato di losanghe ottenute da puntini ricorrenti e da linee. Con ogni probabilità i primi orecchini di questo tipo ebbero poi una notevole diffusione. Sono quelli recuperati all'Auriacum, l'Orne, in tombe appartenenti alla popolazione romana provinciale e databili al IV secolo. Le donne romane lo usarono per tutto il VI e buona parte del VII. In Friuli si sono recuperati alcuni esemplari a Cividale, Torreano, Firmano e a Erto, nell'Agordino a Taibo, nel Trevigiano a Tarso. Per il Trentino non ho notizie. L'orecchino a globulo poliedrico è assente nelle tombe longobarde, salvo che in rarissimi casi, per quanto ne so, come per esempio gli esemplari piuttosto guasti rinvenuti nella tomba numero 158, assieme a un paio di fibule ad esse, frammenti di fili d'oro e perle di pasta vitrea, databile ai primi decenni dopo il 568. Di produzione autoctona sono da considerarsi poi orecchini di vario tipo, come quelli a cappio e quelli sempre in bronzo con inserita nell'anello una perla di vetro di pasta vitrea, assai diffusi in tutta l'area longobarda. I più recenti esemplari perfettamente conservati sono stati recuperati nel 1981 in una sepoltura messa alla luce nella pieve di San Lorenzo in Monte Abbuia, in provincia di Udine. Per quanto riguarda le sopravvivenze archeologiche longobarde, inizieremo la nostra indagine, e mi si perdoni, dal Friuli, non solo perché è stato il primo territorio occupato dall'esercito di Alboino, ma anche perché è la regione che sinora mi sembra sia stata studiata con maggiore attenzione. Due secoli di amministrazione longobarda in Friuli hanno lasciato notevoli testimonianze archeologiche, oltre che artistiche, particolarmente a Cividale del Friuli, che costituisce indubbiamente uno dei più importanti centri di ritrovamenti cimiteriali. Occupata la città tardo antica, senza incontrare ostacoli, i longobardi iniziarono a seppellire i loro morti sia fuori che dentro le mura del castrum. All'esterno del nucleo abitato si possono chiaramente indicare due ampie zone cimiteriali che si svilupparono contemporaneamente. Una posta a nord della città, conosciuta dagli studiosi con il nome di Necropoli di San Giovanni Cella, ed una ad ovest, la cui vasta area assumerà sin dall'alto medioevo il nome assai significativo di Pertica. Ho già avuto occasione di dire che i cimiteri che trovarono spazio fuori le due porte urbane furono presumibilmente organizzati secondo un piano che doveva tener conto dell'acquartieramento della popolazione longobarda, stanziatasi forse nei punti più nevralgici del castello, col chiaro intento di proteggerne gli accessi. Le tombe costantemente orientate da ovest ad est, nella loro quasi totalità, ma questo è un dato comune per tutta l'area longobarda, sono costituite da una semplice fossa scavata nel terreno e la sua profondità è in costante rapporto con la ricchezza del corredo funebre in essa contenuto. Naturale precauzione contro i violatori di sepolcri. Spesso sono protette lungo i quattro lati da una cordonatura secco di ciottoli, talvolta si presentano ricoperte protette ai lati da lastre di pietra, come in uso presso gli autoctoni. Più raramente, per la deposizione del cadavere, si fa uso di una cassa di legno o si riutilizza un sarcofago in pietra. È stato inoltre notato che le tombe poste su due o tre file venivano collocate nell'area cimiteriale per gruppi ad una certa distanza tra loro e ciò potrebbe far supporre che gli inumati venissero deposti per fara, per nuclei familiari, così come si è potuto accertare in cimiteri pannonici. Accanto ai morti venivano collocati quegli oggetti che ad essi erano appartenuti in vita e su cui avevano ancora diritto di possesso. Accanto ai morti venivano collocati appunto oggetti che ben conosciamo, E questa usanza cesserà verso la fine del VII secolo. Nell'Austria Longobarda si risolverà proprio in questo lasso di tempo lo scisma dei tre capitoli. E degli antichi riti rimarrà il tradizionale orientamento della tomba. Nelle sepolture maschili si ritrovano armi, morsi di cavallo, speroni, coltelli, fibbie e guarnizioni per cintura, pettini, forfex, ceramica, vetri, vasellami in bronzo. In quelle femminili, fibole di vario tipo, anelli, orecchini, braccialetti, collane, chiusure e guarnizioni della borsa, ceramica, vetri, pettini, fibbie, talvolta spade in ferro per tessitura. La suppellettile dei cimiteri gallo in zona pertica e San Giovanni a Cividale, le tombe più antiche sono databili a qualche decennio dopo, 568, ha tante caratteristiche pannoniche nel suo insieme che potrebbe benissimo essere scambiata con la rispettiva parte pannonica. Questa constatazione ha fatto sospettare a István Bona che le fare che occuparono Cividale e accuratamente scelte dal primo duca Gisulfo I, secondo il racconto di Paolo Diacono, erano composte in parte di Longobardi Valeriani della Pannonia orientale e in parte di quelli del gruppo di Egico. La crocetta in lamina d'oro, destinata ad ornare e a impreziosire i sudari, si ritrova per la prima volta in terra italiana sia in tombe maschili che in femminili. Da un calcolo approssimato, i corredi funebri di alcuni sepolcreti non sono stati purtroppo al tempo suddivisi per tomba, possiamo dire che le sepolture venute alla luce a Cividale assommano a circa 200-250. Le zone cimiteriali fuori le mura urbane sono sicuramente due, San Giovanni Cella e Pertica. È possibile, gli elementi per supporlo ci sono, poter in seguito parlare di una terza necropoli, posta a sud della città oltre il fiume Natisone, probabilmente prosecuzione di un cimitero romano. Due considerazioni. Il cimitero di San Giovanni, che è stato forse l'unico che è stato, se non completamente, perlomeno per il 98%, scavato, nel cimitero di San Giovanni, ripeto, ha restituito 151 tombe. 47 di esse appartengono a Longobardi, 83 risalgono al periodo romano e possono essere datate dai primi del secondo secolo d.C. al VI secolo. Per le rimanenti 21 tombe non è possibile stabilire attraverso il solo esame dei reperti a quale dei due gruppi etnici esse appartengono. Su quest'area sono state portate alla luce, come ho accennato, le sepolture longobarde più antiche, cosicché il cimitero viene ad assumere sotto questo aspetto notevole importanza, poiché ci è dato di constatare come i Longobardi non disdegnassero seppellire i loro morti in un cimitero romano. Le tombe scoperte nell'interno della cinta muraria della città sono invece situate nell'ambito di un edificio sacro. E questo dimostra, mi pare, che i Longobardi a Cividale, e sarebbe interessante allargare l'indagine su altri territori, acquisirono ben presto, le inumazioni possono tutte essere datate tra la fine del VI e i primissimi del VII secolo, un'antica usanza propria della popolazione romana. Questo almeno per quanto riguarda il ceto nobile, poiché dalle sepolture si recuperò sempre un corredo funebre di particolare ricchezza. I sepolcri più o meno vasti venuti alla luce in Friuli sono situati lungo le principali vie di comunicazione o allo sbocco delle valli o ai margini di un fiume, e ciò lascia intendere che gli insediamenti delle fare erano stati posti secondo un piano militare a difesa delle strade, dei passi montani, dei guadi e delle fortezze, costituendo così un saldo presidio per l'intero territorio. Per quanto concerne il sistema stradale della regione friulana, terra di frontiera, è necessario precisare che con l'arrivo dei Longobardi e il conseguente ripiegamento delle truppe bizantine verso il litorale adriatico e le numerose isole della laguna, si verifica un profondo mutamento nella situazione viaria della Venezia orientale. Strade infatti che avevano avuto precedentemente notevole importanza, come ad esempio la consolare Annia, perdono il loro ruolo primario, scadendo spesso a tal punto da divenire intransitabili. Percorsi di minore interesse assumono invece, appunto per la nuova situazione politica che si era venuta a creare, grande importanza, perché più sicure. Le strade di maggior traffico vengono quindi ad essere non più quelle che si dipartivano da Aquileia, bensì quelle che convergevano sulla capitale del Ducato. La più importante di tutte, infatti, divenne la via che da Cividale, tagliando la pianura friulana, andava ad unirsi a Codroipo alla cosiddetta strada alta proveniente dal ponte sull'Isonzo, punto chiave del sistema difensivo della Venezia orientale, per procedere poi verso Verona e Pavia. Nel febbraio-marzo del 1980 è stato portato alla luce a Solcan, Salcano, un piccolo centro della Slovenia posto appena al di là della linea di confine tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Jugoslava, un sepolcreto tardo antico, IV-VI secolo, longobardo, costituito da 21 tombe, in 5 delle quali furono inumati altrettanti militari longobardi. Dalle tombe 3 andarono distrutte dai mezzi meccanici, 2 furono regolarmente esplorate, si raccolsero spade, sax, punte di freccia e un interessante completo di cintura con decorazione ad agemina. Il materiale che viene datato dai colleghi jugoslavi alla fine del VI o primi del VII sarà quanto prima pubblicato. La scoperta si presenta di grande interesse se si collega la località con l'antica Saliganum, posta ai margini della via che, proveniente da Iulia e Mona, Lubiana, portava attraverso il Pons Sonzi alla pianura friulana. Precedentemente, nel 1976, nella località di Bilie, situata al di sotto di Solcan, a circa 100 metri dalla strada che univa i Balcani all'Italia, durante scavi per opere pubbliche, vennero distrutte alcune tombe da cui si recuperarono armi, coltelli, un imbone di scudo di forma troncoconica, borchie ed una fibola per cintura, materiale tutto che viene datato alla seconda metà del VI secolo. Un altro fortunoso recupero è avvenuto quest'anno nei pressi di Magnano in Riviera, in località detta Fontanutis, posta per essa su una importante via per compendium che univa Concordia a Codroipo e quindi la strada alta Colamanzio a Dessilanos, proprio al punto di incrocio con un'antica strada di primaria importanza, qual era la via che, partendo da Aquileia e attraversando in senso longitudinale la regione, raggiungeva da una parte il passo di Monte Croce Carnico, mentre dall'altra perveniva ai territori danubiani. Mezzi meccanici, mentre stavano spianando una collinetta di circa 4 metri, si sono rimbattuti in una tomba longobarda, distruggendola senza pietà. Un provvidenziale giovane del luogo, passando casualmente vicino allo sbancamento, notò alcune lastre di pietra, in parte frantumate, poste in senso verticale, a fianco delle quali scorse all'estremità di uno scheletro. Ebbene, è riuscito a recuperare uno splendido anello sigillo in oro, 2 speroni con agemina e relative fibbie, un pettine, forse 2, e un'arma da taglio, che sembrerebbe un sax corto, ma è tanto corto che chiederò poi la consulenza a chi ne sa più di me, appunto a voi. Datemi una mano perché non capisco questo, ma comunque ne parleremo dopo. La moneta, mi informa cortesemente Ernesto Bernareggi, è un solido di Costantino IV, con i fratelli Eraclio e Tiberio, databile tra il 668 e il 680. Anche nei territori degli altri ducati, ma qui la mia indagine deve proseguire e spero di riuscire a portarla a termine per immetterla negli atti del nostro seminario, riscontriamo un'analogia per quanto concerne gli stanziamenti dei nuclei longobardi con la situazione già nota per il Friuli, particolarmente nel Ducato di Trento, pur esso territorio di frontiera, dove una condizione archeologica favorevole, ma che necessita di essere maggiormente approfondita, può permetterci di osservare come i Longobardi si disponessero particolarmente lungo il corso del fiume Adige e della via Claudia Augusta, e lungo quella della Val d'Adige, che partendo da Verona raggiungeva Trento. Mi guardo bene a questo punto dal mettermi a discutere se la Claudia Augusta avesse o meno due percorsi. Lascio volentieri il problema agli specialisti di topografia antica. La Claudia Augusta è presidiata adesso dai soldati longobardi anche nel Bellunese e particolarmente lungo il tratto che da essa si dipartiva per raggiungere Belluno e proseguire per Littamo all'inizio della Val Pusteria. Quanto sommariamente ho esposto non deve lasciare intendere naturalmente che i Longobardi vivessero separati dalla popolazione romana, gli altri fieri fieramente chiusi nei castelli, che poi non erano molti, diciamo appunto anche per Braga, e nelle fortificazioni minori, gli altri invece nei villaggi sparsi per le campagne o sui monti. Quando il materiale archeologico si fa più abbondante, come nel Trentino, ci accorgiamo che in una medesima località convivono i due gruppi etnici, come a Vervò, per esempio, a Trento, Terlago, Bosentino, Nomi, Valle Villa Lagarina, Sant'Ilario, Rovereto, Mori, Marano d'Ala, ce ne sono ancora. A questo punto qualcuno potrebbe chiedere quale contributo abbia dato in Italia l'archeologia, strumento così importante nell'indagine altomedievale, al problema dei rapporti economico-sociali intercorsi tra Romani e Longobardi. Devo mio malgrado rispondere un contributo modesto se paragonato poi ai successi ottenuti in questo campo dagli archeologi d'Oltralpe. E le ragioni? Molteplici. La mancanza già denunciata, ad esempio, di vere e proprie scuole presso i nostri atenei. L'impossibilità di elaborare sistematicamente i dati perché non disponiamo di una carta archeologica o di un corpus dei reperti, così spesso mal catalogati e conservati. Gli scarsi interventi nel settore degli scavi e così via. Gravi carenze sottolineate già al VI Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, tenutosi a Milano nel 1978 da Joachim Werner, nel suo discorso inaugurale. Tra l'altro, l'illustre maestro ha lamentato una persistente dicotomia nell'indagine e nell'interesse degli studiosi tra stanziamenti pre-italiani e italiani, che dovrebbero invece essere considerati in un unico quadro nello studio della cultura longobarda. E che dire poi del problema degli autoctoni, da noi così poco studiato, e si dovrà pure ricominciare a percorrere questa strada se si vorranno acquisire altri elementi per la storia dell'Alto Medioevo italiano. Premesso che la convivenza politico-sociale tra Romani e Longobardi ebbe inizio non in Italia ma nelle città pannoniche, dove tra l'altro i due gruppi etnici si erano già amalgamati con matrimoni nel corso di parecchi secoli, constatiamo che in Italia la loro cultura materiale e spirituale continua a svilupparsi sui fondamenti pannonici. Le differenze cominciano a manifestarsi, è una precisazione di István Bona, solo attorno alla fine del VI secolo, quando i Longobardi, trasformatisi in aristocrazia occupante, si appoggiano consapevolmente sulle forze economiche dell'Italia. ma sino a quando non potremo disporre, ripeto, di una carta archeologica di base, derivante dalla schematizzazione degli insediamenti conosciuti per vie diverse, il contributo che la nostra archeologia potrà dare al problema sui rapporti intercorsi tra romani e longobardi in terra italiana sarà assai modesta e quanto mai frammentaria. Fortunatamente ha già da tempo iniziato ad operare in questa direzione Otto von Essen, con notevoli contributi. Ricordo solo i due preziosi volumi sulle presenze archeologiche longobardi in Toscana e il riesame dei reperti tombali della necropoli di Testona. E gli dobbiamo ancora essere grati per aver avviato alla ricerca sistematica i suoi allievi. Ma il cammino è lungo, difficoltoso, ed è necessario che altri giovani continuino il lavoro di salvataggio, di recupero e di catalogazione per portare nuovamente alla luce tutto quel materiale che ancora giace, esposto o meno, nei nostri musei o è gelosamente nascosto da persone private in raccolte cosiddette private, che io non riesco mai a capire il perché non si sequestri questi oggetti e si portino in un museo nazionale. Ogni nuovo contributo sarà sempre accolto col più vivo interesse. E con il più vivo interesse e profitto personale leggerò attentamente, appena arrivato a Cividale, l'ultimo lavoro della dottoressa Mante, Materiali altomedievali trentini conservati nei musei di Trento, Rovereto, Ala, Riva del Garda e Innsbruck. Grazie. Ci dice che l'avanzata longobarda fino a Milano fu un'avanzata pacifica, non ci fu uno scontro. E d'altra parte è impossibile pensare che un uomo militarmente avveduto come Alboino, che indubbiamente lo era, andasse avanti tranquillamente per l'antica via Postumia, lasciandosi scoperto completamente il fianco sinistro. Il fianco sinistro che è presidiato e punteggiato da una serie di organismi difensivi, secondo il sistema romano, castrum centrale e castella dispersi a raggiera stella intorno al castrum, che hanno il nome di Bergamo, di Altinum, di Padova, di Mantova e via, di Cremona e via di seguito. E in effetti questa avanzata, mi era stata, questo tipo di avanzata, mi è stato suggerito da una osservazione, se volete, banale, ma che ha la sua base, e cioè che in Friuli e anche nella Vicenza e a Verona, quando si vuole parlare di un fatto catastrofico, secondo quello che comunemente usato a dire, catastrofica sarebbe stata l'invasione longobarda, non si parla mai di longobarde. L'unico flagello che si conosce è Attila. Attila lo trovate dappertutto. E come Napoleone, come Garibaldi, è stato in tutti i posti e in tutti i posti ha lasciato la sua tomba. Non si sa bene quante vite avesse Attila, ma una tomba d'Attila c'è in Carpi, una tomba d'Attila c'è nel Vicentino, una tomba d'Attila c'è in altre. Un cimitero d'Attila, Cividale. Cimitero d'Attila, Cividale, e a Cividale Attila non c'è mai. Però abbiamo trovato la necropoli di Santo Stefano. E in sostanza quindi c'è uno iatus. Mentre poi in Friuli c'è per esempio un ricordo dei Franchi sulla via Adria, il cosiddetto ponte di Orlando, il quale naturalmente non era mai stato in Friuli perché era morto prima, ma che indica una presenza franca dopo il 776. È logico quindi che insediandosi successivamente nei centri maggiori, questi Longobardi si siano trovati di fronte alla popolazione autoctona e abbiano capito, ma probabilmente l'avevano già capito in Pannonia, dove si erano sviluppati i centri Longobardi lungo il Danubio e nella zona dove erano anche le postazioni, diciamo così, autoctone, romanizzate della prima e seconda Pannonia. Le necropoli di comune uso vicine evidentemente mostrano che in un primo momento poi passerò la cartina grande dissidio fra Longobardi e Romani o autoctoni non ce n'è stato, c'è stata una convivenza abbastanza pacifica. E la cosa è tanto più interessante in quanto i Longobardi si adeguano al metodo romano di seppellire fuori. Anche se, mi scusi un momento, anche se Alessandra Vaccaro, nel suo ultimo volume, dice che non è possibile che si accentrino in una chiesa, quando poi l'abbiamo trovati dentro. Alessandra Vaccaro ha scritto ultimamente e contesta questa mia, penso, plausibile ipotesi di accentramento della nobiltà attorno agli edifici sacri che abbiamo trovati anche dentro la chiesa di San Giovanni in Valle, vicino al Tempietto, nella chiesa di San Martino. Contesta, dice che non è possibile che... però non dà nessuna spiegazione, quindi io rimango dalla tua opinione. Comunque il fatto è che a Cividale e forse in qualche altro posto c'è questa distinzione fra la città e il cimitero extramurano in base alla legislazione romana. Non dobbiamo dimenticare un frammento, purtroppo non me lo ricordo, non mi ricordo di chi sia e in quale libro si trovi del Digesto, ma è un capitolo, è proprio una lex prima di un titolo De Sepulturis, o De Sepulcris, in cui si riporta addirittura la norma delle 12 tavole in urbe nec urito nec sepelito, cioè nel centro cittadino non poteva sorgere il cimitero è sempre fuori e questo lo sappiamo benissimo, ma i Longobardi lo sapevano anche loro evidentemente, poi successivamente ne abbandonano questo principio. Ma non vorrei essere troppo barbaro da iniziare io la discussione, e mentre è bene che questa discussione avvenga da parte dei colleghi. I colleghi, soprattutto archeologi, io non sono un archeologo, io una volta ero storico del diritto, adesso non so più che cosa sono. Ad ogni modo, prima di dare inizio alla discussione, vediamo questi ultimi reperti che sono inediti, e sono ben lieto che Brozzi abbia riservato questa inaugurazione di studio della tomba di Magnano in Riviera. Badiamo che Magnano in Riviera è nella zona militare, diciamo un una zona trincerata che è nel medio tagliamento, forma una specie di triangolo di castelli ben conosciuti, perché ci sono nominati in parte da Venanzio Fortunato, quindi 570, e in parte da Paolo Diacono a proposito della incursione avara del 610, è vicinissimo ad Artegna, e Artegna è uno dei castelli che forma proprio il vertice settentrionale del triangolo Artegna-Gemona-Gemona-Osoppo-Osoppo-Artegna, un triangolo perfetto dietro il quale si schiera poi un'altra linea di difesa e molto probabilmente è una organizzazione del secondo secolo, che potremmo dire presso poco verso il 167-168 da parte di Marco Aurelio, dopo l'incursione dei quadri marcomanni, che aveva attaccato tanto a Siena quanto Concordia, aveva scrollato insomma il confine orientale. Magnano in Riviera dunque è un elemento, probabilmente anche un propugnacolo, un livellino io direi di Artegna, perché è a due passi, in cui si sono insediati anche questi Longobardi, e questo signor Longobardo che è stato casualmente ritrovato pochi metri fa. Adesso io non li ho visti, quindi mi metto anch'io a vedere queste cose. Le prospettive non sono molto buone, a parte che per Cireneo che ha trovato. Questa è la collinetta, è una collinetta morenica, mi diceva l'amico che ha trovato gli oggetti, alta circa 4 metri, ed è una delle tante collinette che si prolungono fino a Gemona e oltre. E aggiungeva anche che dava fastidio all'agricoltore, il quale non poteva arrampicarsi con i suoi mezzi meccanici sulla collinetta per le arature, e quindi ha pensato bene di distruggerla. Come si chiama questa località? Fontanutis, che vuol dire piccole fontane, è una zona di risorgire. Difatti, Fontanutis, per i romani andare ad Silanos voleva dire andare alle sorgenti. Qui vediamo, confesso che il materiale non l'ho visto, perché mi comunicava ritrovamento facendomi vedere alcune diapositive, e io partivo qualche un giorno o due dopo per Lungo. Materiale fortunatamente ora è depositato presso il Museo Nazionale di Cividale. E in questa zona qui si vede molto bene, i meccanici senza accorgersene hanno buttato all'aria la tomba. La tomba, a detta dell'informatore, era costituita da lastre di arenaria per i quattro lati, sul basamento e sigillata pure da queste grosse lastre di arenaria, e questo mi faceva pensare appunto alle tombe trovate a Trezzo, cioè questo sistema di tomba a sarcofago, diciamo così. La proporzione degli attrezzi, messi forse anche apposta, dice quanto basta sia questo limita. Qui sono ancora i resti di queste lastre. Io non ho capito come mai il trattorista, o come si chiami, andando a sbattere con tutto questo pietrame, non abbia detto per Bacco cosa c'è. È andato avanti e ha distrutto. Prego. Sì. Niente, qui troviamo ancora le lastre poste in senso verticale e orizzontale. Ecco il campo dietro. Quasi alla fine. Praticamente. E questa è la moneta. È un anello in oro con gambo e sezione circolare, decorato con ovoli e tre globetti, nel punto in cui il gambo è saldato alla testata. Incastonato vi è un solidus di Costantino IV. Il diametro di questo anello è esterno è centimetri 2, interno 1,78. Ieri sono andato da un orefice, il quale lì per lì mi guardò con sospetto, e gli chiesi se l'anello poteva essere, io sono ignorante di queste cose, infilato in un dito di un uomo. L'orefice alto mi disse: guardi che il mio anello è 1,71, quindi dice è un anello da uomo. Dopo vi dirò perché di questo mio dubbio. Pesa grammi 8,20. La moneta ha un diametro di centimetri 8,20 grammi peso. Il diametro della moneta è 1,6 centimetri. Voglio leggervi quanto cortesemente il professor Ernesto Bernareggi mi comunicava. Nella sua lettera diceva che la moneta è originale di Bisanzio, il cui conio, piuttosto brutto, è caratteristico di questo imperatore. Non è, a detta dell'illustre specialista, una moneta molto rara, ma nemmeno molto comune. È un tipo che non ha avuto seguito, e aggiunge, appare piuttosto strano che in quest'epoca tarda ci si rivolgesse al solito bizantino contemporaneo. Infatti sarà proprio nel 680, continua, che salito al trono di Pavia Puliperto si rinnoverà la monetazione longobarda con l'adozione del ritratto del re nel recto e con la raffigurazione di San Michele nel verso. Le misure della tomba, mi ricordo di dirle, riferitemi sempre dall'informatore, dovrebbero essere misure interne 2,50 m per 0,90 per 0,45. Ecco, qui invece vediamo il rovescio con Michele. Fotografie un po' piccoline, ma abbiate pazienza di qui. Questo. Prego. Ecco, due linguelle trovate vicino agli speroni con le relative fibbie. Gli speroni sono molto frammentati. Adesso farò vedere uno di questi due speroni. Il materiale. Dunque, Le linguelle sono in bronzo di centimetri 4 per 2,2 con tre volte le fibbie. Prego. Ecco. Lo sperone, frammentato anche l'altro, speriamo che qualcuno poi lo possa rimettere a posto. E hanno trovato su una fibbia frammenti di cuoio. Due speroni in argento con una gemina in argento, due in ferro con una gemina in argento. Mi ha dato queste misure, dicendo appunto che erano frammentati, di centimetri 8 per 7,5. La faccia interna è piatta, mentre l'esterna è tondeggiante. Il puntale è conico, con una ammellatura, mi dice, alla base, in rame. E qui bisognerà vedere. Forse in bronzo, forse anche in oro, non ho idea. Prego. Questi sono i frammenti del pettine. Come è mai dottor? È stato bravo poi anche a trovarli. Ma sembrerebbe che ne fossero stati due. L'informatore diceva che uno è a doppia dentatura, e poi c'è un pezzo che secondo lui dovrebbe essere il manico del pettine. Io non... bisogna vedere questi oggetti. Bisogna farli restaurare e poi metto. Prego. Oh, e questa è l'arma. Vedete la proporzione con una matita? È un ferro munita di corolo con ghiere in bronzo, con le scannellature lungo la lama, però misura centimetri 17,45. Mi pare, vedendo la fotografia, dico mi pare due volte perché, che sia a un taglio, mi pare. Sì, sì. Quindi mi viene in mente un sax, qualcosa di... Non è un coltello. È un coltello, appunto, perché per il sax è troppo corto. Sì, sì. Anche su un sax corto, questo era cortissimo. E ecco perché sono andato a sentire l'orefice. Pensavo a un ragazzo, no, a un nano no, perché non lo guardo, non è... Ma a un ragazzo pensavo. Invece è escluso dicendo che era un adulto. No, ma che guarda a me gli speroni, non può essere un ragazzo. Io ringrazio perché è una cosa che chiarisco, voi siete specialisti, quindi mi rendete più tranquilli. No, quello... Le armi probabilmente sono andate per tutte. E qui siamo ancora sulle bocche. Poi, in una nuova fotografia, mi diceva che ha trovato una linguella appena sotto la rotula, perché dello scheletro sono rimaste le parti inferiori delle gambe. Era sotto alla rotula e ancora con notevole quantità di cuoio, il che penso potrebbe far pensare a una fibbia per gli stivali, qualcosa del genere, che la posizione è quella lì. Questo mi pare sia l'ultima, sì. Sono stato contento di farvele vedere, soprattutto di sapere. Ma io ho una domanda, io ho una carta di questa zona. Sì, ecco, facciamola vedere, bravo, sì. Mi può farci passare poi qualcosa. Vi faccio vedere il punto dove è stato trovato. Fatemi orientare, No, questo è buio, ma questo mattina qua. E quindi siamo fuori. Siamo fuori, dovrebbe essere. Ma è nella. Molto vicino al cartello di Altenia. Sì. Sulla carta che ho predisposto con la penna ha fatto un richiamo che Magnano dovrebbe trovarsi da questa parte qui, quindi siamo fuori la strada, viene su così, siamo fuori carta purtroppo. Molto importante, penso, il ritrovamento di questa tomba al termine della via per Compendium, proprio sul punto in cui essa si immetteva nell'altra strada che portava al passo del Monte Croce Carnico da una parte verso Tarvisio, costeggiando il Fenna dall'altra, poi la vedete meglio sulla piantina. È importante perché lungo il percorso dal Cotroico ad Silanos sono stati effettuati ritrovamenti a Cotroico nel 1956 in piazza Garibaldi, vengono portate alla luce casualmente alcune sepolture assegnabili tra la fine del VI e i primi del VII. Proseguendo a Mereto di Tomba, in anni diversi, in località cimitero, affiorano tombe longobarde della prima metà del VII. Proseguendo ancora... Ecco, Mereto di Tomba è qua. Ecco, no. Tomba. Tomba e Mereto. Proseguendo ancora, all'ingresso dell'abitato di San Vito di Fagagna, si recuperano 12 tombe di militari, databili anche ai primi decenni del VII secolo. Mentre di fronte c'è Ciconicco, 4 case, e anche lì sono alla luce nel 1878 due tombe di guerrieri. Mentre in anni diversi, poi sempre nella zona, è affiorata la vasta necropoli di San Salvatore di Maiano, che non è lontana dall'antica strada, e bisogna considerare anche i rinvenimenti di Colosimano di Buglia, che confermano l'accentramento militare longobardo lungo tutto il percorso della via che per Compendio da Corroico raggiungeva ad Silanos. Adesso quando torno su spero che abbiano deciso alla sovrintendenza, dopo profonde meditazioni, di effettuare altri sondaggi, perché penso che non debba essere solo questo nostro guerriere, il nostro cavaliere, chiamiamolo, perché spero non c'era. Ad ogni modo, ecco qui, vediamo bene il triangolo, il campo trincerato, diciamo, Gevona, Osorpo, Artenia, linea seconda, Buia, Tarcento, e di qui da Buia si va verso Maiano, in Riviera, Ragogna, San Daniele, tutte zone incastellate poi nel periodo medievale, ma probabilmente anche antico. Ecco, questa forse è qui. Ecco, qui lei, la mia... Qui non è segnata la via per Compendio, che serve... Scusa, Carlo, ma dietro io perché mi sono, sei bello ma non sei trasparente. Ecco, è questa qui, non so cosa. anzi, qui, qui c'è Codroico. Codroico qui, 26. È il quadruplo? Sì, 26, numero 26. Qual è? No. Sì, sì. No, questa è la Cividale. Ma questa va su questo. Sono attraverso tutta questa zona di ritrovamenti longobardi. Il punto di ritrovamento è presso a poco in questo, è qui. Una via molto importante perché oltre che a evitare il giro per Aquileia, che non era più consigliabile perché c'era il limes longobardo bizantino, abbreviava di molto il percorso per raggiungere la strada che da Aquileia portava su al Nonico. Ecco, io non ho finito. Allora, su questo fatto penso che possiamo sentire il parere degli esperti archeologi. Volevo veramente che sareste voi a farmi, a farmi domande, ma se permettete vorrei chiedervi anche un parere su questa prego. Benedino, c'è problema, a parte che l'anello è data molto bene. Sì, certo. È una notizione più precisa non si può avere, già per la forma delle linguette, dei speoni, e per la forma dei speoni è una tomba assai tarda. A nostro avviso, questi speoni a taglio semicircolare, sicuramente sono sicuro quando si restaura questo speone che sarà decorato con strisce, come l'abbiamo già nel museo di Cividale dal materiale di Maiano. Di Maiano. Un'altra cosa molto interessante è la forma dell'anello, sui quali ho scritto diversi studi ultimamente, e uscirà uno nei quadri ticinesi. Adesso verso Natale è un zero sigillo come lo conosciamo dalla tomba di Gisulfo. Siamo senza dubbio in una tomba nobiliare con questo materiale qui, che abbiamo così poco materiale da questa tomba, è chiaro, perché abbiamo solo le gambe e le armi stanno in genere nella parte superiore, sono spariti. Insieme alla cintura probabilmente della spada o dello sax che c'era in questa tomba, questo coltello è sicuramente un coltello, senza dubbio. La fibbia che ci hai fatto vedere credo non fa parte dei speroni, ma sarà la fibbia della cintura, ma la cintura del vestito, non la cintura delle armi. È un tipo anche assai sviluppato, entra in quel tipo che io una volta un po' di fretta, frettoloso, chiamato tipo Grancia, che nel frattempo si trova in tutta Italia. Per quello si può dire in breve, abbiamo di nuovo il resto di una tomba importantissima che purtroppo è messa a disputa. Purtroppo sì. Ma stiamo sicuramente nell'anello nobiliare, con dell'anello. Poi volevo aggiungere due piccole cose alla tua conferenza. Cose che tu non puoi sapere perché sono recenti scoperte, specialmente dai miei allievi nel sud dell'Italia. Quello che si pensava una volta, che le fibole a croce, le fibole a forma di animali e le fibole a braccio. Fortuna, specialmente dalle ricerche della Maria Rosaria Salvatore e di altri che hanno lavorato nei depositi dei musei regionali, è uscito tutto un grande gruppo di questo materiale e il segno che veramente era il materiale che era in uso in tutta l'Italia dalla popolazione indigena. Questo mi fa piacere. Questo vale anche per certi tipi di orecchini e così via. Sì, che sembravano tipici di una zona. No, quello era lo stato della ricerca, era una lacuna che si sta chiudendo adesso e credo che nei prossimi anni possiamo dire molto di più su questo materiale. Già il professor Bibrova aveva raccolto nelle sue ricerche, così soltanto della bibliografia, parecchio materiale di confronto. Adesso abbiamo non so, il triplo o il quadruplo di quello che c'era prima e credo che fra poco si può veramente anche datare questo materiale un po' più preciso. Ricordo solo lo scavo di Ultigliano per Maria Rosaria, che probabilmente hai visto, con materiale che finora non era tanto conosciuto e adesso lì è ben datato per diversi corredi di tombe chiuse che si datano a vicenda, e così tutto. Abbiamo delle buone possibilità di andare avanti, ma il fatto è sempre, purtroppo, quello che ha detto anche Pietro e che ha detto te, che nessuno si decide di scavare una volta una necropoli intera. Tutto quello che abbiamo qua sono sempre frammenti. Io conosco personalmente adesso almeno una cinquantina di siti dove si potrebbe scavare, che sono noti anche alle sovrintendenze, ma non c'è nessuna impresa in questo senso, e questo è il grande peccato, devo dirlo purtroppo. Ma io sono lieto di quello che hai detto, perché effettivamente ripete quello che stiamo dicendo da qualche anno. Parlo di una cinquantina di siti in campagna, non quei siti che sono già meno distrutti da altre costruzioni vicine. Sì, ma c'è un esempio tipico a Cividale. Sì. Mi pare che 15 anni fa, non la settimana scorsa, vicino alla stazione ferroviaria, siamo in zona pertica, è tutto un vasto cimitero, avrà una lunghezza di 2 chilometri, trovati qua e là questi gruppi. Ponendo le fondazioni per una luce pubblica, recuperarono un vaso in bronzo, naturalmente gravemente ferito perché il piccone andò sopra, e lo portarono in museo. E il resto è sotto. E lo dobbiamo scavare. Sono 15 anni che, per quanto mi sia dato da fare, anche quando ero direttore al museo, e anche prima, non c'è verso. No, adesso... Abbiamo detto, perché cominciavano a dire che non avevano soldi, questa è la prima. Allora c'era una banca popolare che ha detto: non preoccupatevi, e mettiamo noi, perché abbiamo dei fondi per queste cose. Niente da fare. Ma adesso posso dirti che quello scavo lo facciamo noi del... Ah, si sono decisi? No, ho deciso io. Poi altri problemi a cui andiamo incontro sempre per poter avere quanto più materiale possibile, perché giustamente, diceva Assia, poi cambiano anche le opinioni, perché se si pensava che la produzione di un dato oggetto avvenisse nel territorio friulano, lombardo e veneto, vediamo che oggi non è più vero, perché abbiamo trovato altre cose simili nell'Italia meridionale. Quindi effettivamente c'è un progresso nella ricerca. Ma ad esempio, io ho saputo dopo 28 anni, e questa è una pecca delle sovrintendenze, dopo 28 anni ho saputo che tenevano in una cassetta nei fondi di un magazzino una tomba appartenente sempre alla popolazione romana del VI-VII secolo, perché ora non completa, ritrovata poco lontano da Vittorio Veneto, a Borgo Palù, non distante poi dalla località di Sarmede. 28 anni che era lì, nessuno si decideva a pubblicarla, perché quando uno va alla sovrintendenza che sa qualche cosa e dice: guardate, fate piacere di farmela vedere, poi possiamo anche pubblicare, no, dobbiamo pubblicarla noi. Poi passano i secoli, si dimentica il materiale, non si sa più, dice: ma era lì? No, era qua, era su, era giù. Una documentazione che scompare completamente. Questo è un altro grave difetto delle sovrintendenze italiane. Bene, mi pare che c'era più bravo che voler. Oh, io scusa un momento, avevo preparato un cartello, mi sono tutti amici, con su scritto: non sparate al pianista. E una certa mia emozione, l'avrete notata, perché appunto di fronte a degli specialisti, io specialista non è che sia. Allora il cartello non c'è, ma immaginate, vero? Wie ich sage, die Diskussion unterbrechen, weil Frau Krieg gebeten hat, dass wir um 10:30 gut machen werden. Das Erste, was man sich immer vergewaltigen muss, ist die Quellenlage, über die ich ja am Dienstag auch sprach. Wenn Sie zum Vergleich die alemannisch und bajuwarisch aufgesiedelten Räume nehmen und das langobardisch aufgesiedelte, sehen Sie sofort die Quantität der 5 Punkte und spiegelt damit auch wieder das, was wir in Italien nicht wissen, aber wissen könnten, wenn die Arbeit der Denkmalpflegebehörden intensiviert würde. Also dieser Blick ist doch sehr instruktiv, dieses und dieses in der Quantität zu machen. Also die Quellenlage muss uns immer vor Augen stehen, wenn wir versuchen wollen, den langobardischen Fundstoff als Ganzes zu interpretieren. Und ich meine, langobardische Archäologie kann sich nicht darin erschöpfen, kann nicht darin enden, ein Studium der materiellen Kultur zu betreiben. Das ist nicht der Auftrag der Archäologie. Der Auftrag der Archäologie ist ein historischer. Typologie ist wichtig, aber nach der Typologie, Chronologie ist wichtig, nach der Chronologie beginnt erst die eigentliche Arbeit des Archäologen. Im Sinne einer historischen Aufgabenstellung des Faches. Dazu ist das, was wir hier haben, ich sagte es ja am Dienstag, diese Sekta Membra, überhaupt nicht geeignet, etwa vor allen Dingen siedlungsgeschichtliche Prozesse herauszuarbeiten. Also das muss man, dieses Problem der Quellenlage sollte man immer vor Augen haben, wenn wir über Italien und das Alpengebiet im Besonderen sprechen. Bitte das nächste hier. Das berühmte Friaul, über das ja auch mein Freund Mario Portier gesprochen hat. Hier wäre über die materielle Kultur hinaus, meine ich, ein Aspekt zum Beispiel wichtig, wenn man Landesgeschichte betreiben will, zu untersuchen, zum Beispiel, Mario Bozzi hat die Lage der Fundorte zu den Straßen sehr wohl untersucht. Interessant wäre ein zweiter Aspekt. Wie liegen die romanischen Fundorte kleinräumig im Katasterplan zu den langobardischen? Also Studien in den Parzellen, in den kleinstmöglichen Siedeleinheiten zu untersuchen. Wie nahe liegen diese Nekropolen beieinander? Wie ist das Verhältnis zu möglichen Siedlungslagen? Gehören zu beiden Gräberfeldern vielleicht gleiche Siedlungen? Wie nahe liegen sie? Wo sind die Ortskerne der heutigen alten Orte? Also mit anderen Worten, Feldarbeit, lavoro in campo, per fissare i ritrovamenti in un catastro, per la vicinanza delle fonti langobardi e romani. Per esempio, das ist in meinen Augen eine wichtige Fragestellung. Eine zweite Fragestellung, siedlungsgeschichtlicher Art, meine ich, bitte weiter, wäre etwa nicht nur zu sagen, der Ducal Trient ist dicht besiedelt, klar, das sieht man, der Ducal von Brescia ist dicht besiedelt, Bergamo hat auch noch viele Fundpunkte, das ist eine simple Analyse der Magoregion, das ist zwar schon etwas, aber meine ich nicht das Entscheidende. Hier müsste man genau das Gleiche machen, in den Katasterplänen der Gemeinden versuchen, die alten Fundorte zu projizieren auf die kleinstmögliche siedlungsgeschichtliche Einheit. Wo liegen die Orte in der Flussaue, auf der Mittelgebirgsterrasse? Wie liegen sie auch hier die langobardischen Funde zu den romanischen? Um eben das siedlungsgeschichtliche Vorgänge herauszuarbeiten. Wüssten wir zum Beispiel hier, wie die Funde datieren, natürlich sind sie zweite Hälfte 6. und 7. Welch Wunder, wenn sie langobardisch sind. Aber es wäre wichtig zu wissen, wann beginnt etwa dieses Gräberfeld und wann beginnt dieses Gräberfeld. Beginnen sie zeitlich nacheinander? Können wir mit diesen Dissecta Membra vielleicht Zeitschichten herausarbeiten im Sinne einer zeitlich gestaffelten Aufsiedlung des Landes? Also auch das ein bitte? Darf ich einen Moment unterbrechen? Ich wollte noch sagen, das sieht hier auf dieser Karte sehr schön aus. Ich habe die Impression, dass si tratta di cimiteri riscavati, ma questi sono ritrovamenti in gran parte isolati, tutti questi punti. Sì, una cosa che non si deve dimenticare. Sono tutti riferimenti fortuiti, sì, sì. Non ci sono cimiteri organizzati. Allo Martedì, questo, io ho parlato in mia relazione, das Unglück ist, dass ja alles hier die Sekta Membra sind, eingebunden. Ich sage ja, die Forderung an die Denkmalpflegebehörden heißt ja, die Gräberfelder ganz ausgraben. Ich habe ja diesen Bestand geklagt und ich sage, wenn mehrere Gräberfelder ganz ausgegraben sind, dann kann ich eben das, den Auftrag erfüllen, den das Fach an sich hat, nicht zu sagen, hier sitzen Langobarden, sondern mit komplett ausgegrabenen Gräberfeldern historisch fassbare Siedlungsvorgänge, dass das Streufunde sind, das weiß ich sehr wohl, weil ich das Material aufgenommen habe. Ja, nein, ich sage das nur, wenn du das Publikum bist, du das weißt, das muss ich schreiben. Ja, aber das ist die Aufgabenstellung für die Zukunft und es hat keinen Sinn, die Archäologie zu beschränken auf ein Studium der materiellen Kultur und über einen Goldfingerring sich zu freuen. Das kann man, aber das ist unwichtig. Ja. Das, was danach kommt, die Arbeit, il lavoro, dopo la tipologia, dopo la cronologia, questo è il punto importantissimo. Aber ich finde auch beim Einzelfund, auch bei Einzelfunden in dieser Art, eine Abschichtung auch kartografisch hätte vielleicht Sinn. Das geht nicht. Ich kann nur hier abschichten, ich kann differenzieren zwischen 6. und 7. Ja. Da ich aber nicht weiß, wann der Friedhof beginnt und wann er endet, weil es ja Streufunde sind, ist eine solche Aufschlüsselung hier sinnlos, im Gegenteil gefährlich. Ich kann differenzieren nur, wenn ich komplette Gräberfelder habe, Anfang und Schluss. Dann kann ich zeitlich differenzieren. Habe ich nur Streufunde und differenziere die Streufunde zeitlich, das wäre sogar gefährlich. Es kommt darauf an, wie sich die Karte... Das wäre gefährlich, das ist zufallsgefährlich. Ein zweites Wort, die Siedlungsräume der Langobarden und der Romanen. Sie sehen, dass die Siedlungsräume sich an die Flusstäler hier zum Beispiel halten. Aber auch natürlich in Oberitalien, natürlich an einer siedlungsgünstigen Flachland. Aber in den Alpen an die Flusstäler. Das Nonsberg-Massiv zum Beispiel ist frei. Das Leto-Tal ist frei. Also die Mittelgebirgsterrassen über 800 Meter, über 900 Meter sind frei. Für das nächste hier als Beispiel. Die romanische Siedlung greift in die Hochtäler, in die alpinen Hochtäler ein. Das sind Lagen über 950 Meter. Genauso hier oben im Nonsberg selbst drin, obwohl wir hier längst nicht alles kennen. Oder die Karte ist hier nicht dabei, im Olliotal, am Ende des Olliotals greift die romanische Siedlung in das alpine Hochtal ein, die langobardische Siedlung enden zuvor. Also ein ganz gravierender Unterschied, Langobarden in der Piemura, in den Tälern, aber Romanen zusätzlich auch in die Mittelgebirgsterrassen eingreifen. Also auch das ein Beispiel, welche siedlungsgeschichtlichen Chancen eine systematische Aufnahme des Fundmaterials hätte. Bitte weiter. Bei dem Vortrag von Herrn Kollegen Heilmann war die Rede von Talschaften, die in sich spezielle Merkmale tragen. Das kann man auch gelegentlich in der Archäologie verfolgen. Hier sind zwei Fibeltypen kartiert. Fibel, die Mario angesprochen hat, mit Ärmchen und Fibel, gleicharmige Bügelfibel. Die schließen sich aus. Sie sehen es an Signaturen. Im Cordemone-Tal liegen andere Fibeltypen als hier im Trentino. Also auch hier kann man bei der Aufschlüsselung der Fibeltypen Trachteigentümlichkeiten bestimmter Talschaften fassen. Auch das wäre möglich. Und Eigenheiten in der alpinen Koine der Romanitas herauszuarbeiten. Bitte weiter. Wenn man die Frage als letztes stellt, wie kann man modellartig Einblicke gewinnen in Teillandschaften, die romanisch geprägt sind. Hier würde sich anbieten, zum Beispiel als ein Modell, eine Modelllandschaft romanischen Kulturzuschnittes der Nonsberg. Sie sehen hier eine Karte, in der von Professor Noll aus Wien die frühchristlichen Reliquiarien des nachspäten 5., 6. Jahrhunderts eingetragen sind. Solche Steinreliquiare, wie wir auch eins in Säben gefunden haben. Hier gibt es eine ganze Reihe von romanischen, gesichert romanischen Funden von dem Hochplateau. Hier gibt es sehr viele frühe Patrozinien. Alles dies zusammengenommen würde etwa hier eine lohnenswerte Arbeit bedeuten, das romanische Fundgut des 6., 7. Jahrhunderts im Nonsberg zu studieren und in Relation zu setzen zu den wenigen langobardischen Funden, die eben hier im Loschetal liegen, aber nicht auf der Hochfläche. Oder, bitte weiter, ideale Landschaften zum Studium des Romanentums wäre eben hier, entschuldigen Sie die schlechte Qualität des Diapositivs, eben Kärnten, worüber wir in den ersten beiden Tagen ja gesprochen haben. Kärnten mit seinen zahlreichen befestigten und unbefestigten Castra-ähnlichen Siedlungen, bitte weiter, von denen zum Beispiel der Duell bei Feistritz eine solche Anlage wäre, die zum Typ dieser Castrum-ähnlichen Anlagen gehört. Das Studium dieser Anlagen in Kärnten, alle gebunden, tutti sono allegati, alle Chiesi. Castra sono allegati, alle Chiesi. Das Romanentum gekoppelt an Zentren des Christentums. Bitte weiter. Oder eben das bekannte Beispiel Tironia, nicht, wo jetzt gegraben wird, die komplette Ausgrabung des Castrums auf dem Häuser Berg mit der frühchristlichen Basilika hier unten. Auch hier wieder die Kombination Castrum, kirchliches Zentrum. Also die Ausgrabung und Erforschung dieser spätantiken, frühmittelalterlichen Castra, ich betone es noch einmal, deren militärischer Charakter, deren Liebescharakter ich ganz stark bezweifle, würde hier sehr viel weiterführen. Vor allen Dingen mit dem Studium der Bauweise, der Architektur, der Hausformen und der materiellen Kultur, etwa der Keramik in diesen Siedlungen, um Kontinuitätsfragen dort in diesen romanischen, geprägten, nicht langobardisch besiedelten Kulturlandschaften wie Nonsberg und Kärnten, die Romanitas hier herauszuarbeiten. Das war das Letzte, nicht? Ja, Tuornia, diese Friedhofs, die große Kirche am Fuße des Castrum, hier der Plan, eine gewisse Ähnlichkeit mit Säben, Sie erinnern sich. Bitte weiter. Und eben in Säben, Tionia, die Chance, das Castrum ganz zu graben, die frühchristliche Basilika ist gegraben, neuerdings ein Gräberfeld gegraben, romanischen Zuschnitt, das Tier hatte ich Ihnen bereits gezeigt, also ideale Voraussetzungen, Plätze wie Tionia, wie Duell und andere Castra in Kärnten flächig zu untersuchen, und ich bin sicher, wenn die Denkmalpflege hier zielstrebig arbeiten würde, dass wir in 10, 20 Jahren zumindest Modelle romanischer Kulturlandschaften besser umschreiben können als heute Und als Beispiel nannte ich eben Nonsberg und Kärnten, aber auch weitere. Vielen Dank. Signora Amato, amante. Io volevo semplicemente dire al Presidente che per quanto riguarda gli orecchini a Pietro, quelli generalmente ormai, in Trentino abbiamo, generalmente sono d'argento, e in Trentino li abbiamo presenti, ad esempio, proveniente da Villa Lagarina, e Museo di Trento, proveniente da Moni. Poi ci sono ancora di più dei tipi di articoli a disco, in Trentino anzi c'è una tipologia molto varia. E poi nel museo civico di Riva del Garda c'è la presenza di una figura di tipo trentino, la cui provenienza però non è più conosciuta. Io ringrazio perché sono cose che non sapevo, avevo detto che per Trentino ignoravo. Tanto che parliamo sui dettagli, vorrei aggiungere anche una cosa alle figure di tipo trentino. Tu hai citato quella di Traunstein. C'è questa figura di Traunstein, l'ho pubblicata, io la conosco bene. Proviene da Seppur, vicino a Chiemsee, questo grande lago, ma non c'è nessuna sicurezza che si tratta di un vero ritrovamento, probabilmente è un pezzo che ha perso qualcuno che se l'ha portato da Trentino, ma anche può darsi di vicenda. diese Polyederohrringe, die Sie ansprechen, Mario, diese Polyederohrringe sind ethnisch nicht auswertbar. Ja. Die sind weder nur romanisch noch ostgotisch, langobardisch. Diese Polyederohrringe sind genuin romanisch. Und wir können sie am, du hast es gesagt, Ende des 4. Jahrhunderts in den Provinzen Pannonia und im östlichen Binnenoricum, in Noricum etwa, und Ufernoricum frühestens fassen, auch in, du weißt es auch, magst es nicht, genuin romanisch, werden aber am Beginn des 5. Jahrhunderts von den Germanen rezipiert und bis ins 7. Jahrhundert von Germanen wie Romanen getragen. Hier mit Polyederohrringen ist ethnisch überhaupt nichts zu machen. Keine Kartierung ethnisch mit Polyederohrringen, das ist nicht möglich. Sono lieto della dottoressa Amante, sempre dalla scuola di Otto, pubblicherà quanto prima su studi medievali i risultati delle sue ricerche archeologiche nei musei e ci sarà del materiale sinora ancora non conosciuto. Questa è un'altra tessera di quel mosaico che un po' tutti con tanta fatica cerchiamo di ricomporre, quindi è un contributo che sarà di notevole vantaggio per tutti. Questa è una teatra cambiaria per la povera signorina. No, ma è pronta, adesso Spoleto consegna il dattilo scritto. Lo so. Quindi fra un anno di archeologia, sì, come schede di archeologia nella collana che aveva iniziato già qualche anno fa. Sì, su studi medievali. Su studi medievali, molto. C'è qualcun altro che... Ich würde von der Archäologin gerne wissen, wann Sie langobardische Gräber in Kirchen, bei Kirchen, bei von Kirchen entfernt datieren. Ob Sie erstens sicher sind, dass langobardische Gräber sind, zweitens, wenn Sie sich dessen sicher sein sollten, ob Sie Anzeichen sehen, diese auch sozial zuzuordnen. Relativ einfach zu beantworten. Ja. Oder kannst du für Mario übersetzen, die Frage? Lui chiedeva, se gli archeologi avevano la possibilità di dire qualcosa sul stato sociale di tombe. E se esistono tombe in chiese longobardi, tombe longobardi in chiese e se si può attribuire queste tombe ai longobardi. Se ho ben capito, chiede se erano tombe longobarde quelle trovate nelle chiese. Sì, è lo stato sociale di questa gente. Perché se sono tombe longobarde, io penso dagli oggetti che sono stati trovati sia molto chiaro. Nella chiesa di San Giovanni in Valle trovarono il primo, no, il secondo grosso ritrovamento della Chiesa, trovarono tre sarcofagi. E stavano ristrutturando la chiesa dopo uno dei soliti ricorrenti terremoti del Friuli. E verso l'altare maggiore scoprirono una cripta sotterranea, 1751. E abbiamo una relazione disperata di un prete che vide e assistette a questo scempio. Dico scempio perché delle 10 crocette auree trovate nei tre sarcofagi ne rimane solo una acidale. No, un'altra Bologna proviene proprio dalla zona, sì, è simile alla nostra ma proviene dalla zona. E un dischetto d'oro con rilevato un cervo. Tutto il resto, si parla di un piatto d'argento che subito fu spezzato in due e sparì, non si sa più niente. Comunque il materiale è longobardo. Il primo ritrovamento... Meine präzise Frage. Ob diese Gräber langobardisch sind, weiß ich nicht. Diese alten Grabfunde aus San Giovanni, das sind diese Goldblattkreuze drin, das ist ein Stelle und Bicchiere und Cosina. Un bicchiere, e fili d'oro. Fili d'oro. Questi vecchi ritrovamenti, li conosco. Sì. Nella pubblicazione di Top sono più pericolosi. Sì. In prima rubrica c'è Lorenzo del Torre, questo prete, qui nella collana di Calogerà. Die Frage, ob diese Gräber langobardisch sind, hängt daran, ob alle Goldblattkreuze immer nur von Langobarden getragen sind. Und das ist ein Problem der Forschung und ich glaube dieses nicht. Aha, das wollte ich mir nur. Ja, aber es gibt eine ganze Reihe Gräber, die sicher langobardisch sind aus Kirchen. Wir müssen jetzt nur aufzählen. Ja, wir müssen ja konkret werden. Also als Historiker frage ich doch konkret, hier ist eine Kirche und hier sind Gräber, sind das Langobarden oder nicht? Und dann kann ich von Ihnen die Antwort erwarten, ehrlich, ich weiß es nicht, ich weiß es noch nicht, ich weiß es schon. Ich kenne kein gesichertes langobardisches Grab. Also das ist mir eine sehr klare Auskunft. Viehbetracht oder mehr Waffen aus einer Kirche. Nein, das nicht. Aha. Aber es gibt was Waffengräber direkt an Kirchen angelegt, wie zum Beispiel in Chiusi, dieses Neufund. Wird von einem Sachsgrab, der liegt direkt am Dom angebaut. Ja, also ist innen drin. Es ist nicht die große Frage. Was es natürlich gibt, es gibt Kirchengräber, und zwar in der Kirche von Castel Trosino. Diese Kirche in Castel Trosino ist erbaut worden in der zweiten Phase der Belegung des Gräberfeldes. Questa chiesa, di Cimitero di Castel Trosino, fu costruito nella seconda fase del dell'occupazione di questo cimitero. E in questa chiesa sono fatti tombe, ma questi tombe sono di un stato sociale in questo cimitero non superiore, ma questo non devo avere una importanza, io non so, aber Kirchengräber, wenn ich von Castel Trosino absehe, kenne ich im langobardischen Italien nicht, die sicher langobardischen. Ja, das ist, ich meine, Chiusi ist ja auch, das Mädchen ist ja auch mit einer Tat ausgestattet, die international ist. Volevo poi aggiungere che il primo ritrovamento archeologico di cui si sappia notizia avvenuto a Cividale nel 1666, nella chiesa di San Martino, si stavano scavando delle fosse per nuove tombe contemporanee, e si trovarono due tombe, c'è una relazione originale scritta in cui si dice che presso i due deposti vi erano due elmi, evidentemente erano gli umboni, lance e una moneta bizantina. Il materiale andò subito disperso e questa notizia molto interessante dice che il prete, dopo aver dato qualche soldo agli operai perché andassero a bere, fece sparire tutto. Quindi non sappiamo niente, se non qualche notizia attraverso questo. Parla di spade, parla di lance, parla di due riconi e di una moneta bizantina. quindi è supponibile, presumibile che sia una tomba longobarda, e di solito mi riferisco al cimitero naturalmente, ma bisognerebbe vedere giustamente, esplorare un'area molto più vasta. Ma a Cividale il risultato è stato questo. Anche per esempio il sepolcreto venuto alla luce tra il 60 e il 61, chiamato di Santo Stefano in Pertica, era proprio ai limiti di una delle due cattedrali di Cividale, la più antica, il cui titolo era appunto di Santo Stefano in Pertica. Poi c'è altri due casi di sepolture molto ricche, per questo è da supporre che fosse lo strato un po' elevato, nobile dei Longobardi. Furono trovate una tomba presso la chiesuola di San Mauro, su una collinetta, una tomba di donna, con una moneta bizantina e una figura S, e due figure S, di cui una è sparita. La moneta è sparita e la figura si trova presso il Museo di Storia Naturale, non so perché, di Trieste. Un'altra invece fu trovata vicino a un'antichissima chiesa che probabilmente dai resti architettonici potrebbe attribuirsi all'epoca bizantina. È stata trovata un'altra tomba di donna con una figura S e una moneta in oro bizantina. Ne abbiamo notizie perché gli scavi sono del secolo scorso, ma non abbiamo più notizie né della figura e né della moneta d'oro. Quindi tutti questi casi mi fanno supporre questa acquisizione già alla fine del VI secolo da parte dei Longobardi della tradizione romana, che voleva sepolti nell'ambito dell'interno della chiesa. Ho un altro caso, poi la tomba cosiddetta di Gesù, trovata in piazza Paolo Diacono, proprio vicino a un'abside di una chiesa in cui il patrono non ci è conosciuto. Non è un caso solo, ma sono più casi che a un certo momento fanno supporre appunto questa acquisizione da parte del Longobardo. Il perché non lo so, ma probabilmente se ne parlava anche con Conti, la nobiltà, o per politica o per altri motivi, aveva assunto questa abitudine, o perlomeno parte di questa nobiltà. Ich glaube, in diesem Fall muss man auch noch, muss man dazu rechnen, also Kirche, gebe ich ehrlich zu, hat Herr Bierbauer recht. Ich hatte im ersten Moment gedacht, ich wüsste was, aber ich weiß es nicht, es fällt mir auch nichts ein. Aber man muss in die gleiche Fragestellung mit einbeziehen, die Gräber, die sich innerhalb der Stadt befinden. Und da kommt dann schon was ganz anderes dabei heraus, innerhalb der Mauern. Also da sind eben die vom Borsi zitierten Fälle da, aber da gibt es auch das Grab vom Palazzo Ministrati, die Bewohner und eine ganze Reihe anderer. Und da also ist absolut höchste. Darf ich da mal präzisieren nachfragen? Innerhalb der Stadt heißt das, in der Nähe, der noch als besiedelt zur Zeit der Grablegung, ja. Nachweisbar. Wie hat er das Stadt? Ich würde mit der Stadt, ja. Kann man das so präzisieren? Ja, das kann man. Verona, Frau der Alter, ist absolut das Zentrum von Verona gewesen, in der Marienzeit zum Beispiel. Also ich meine, wir wollen jetzt nochmal ein anderes Thema anfangen, das ist Städte Schrumpfen und all das, also das lassen wir jetzt mal beiseite. Nein, das ist eindeutig. Ja, das ist eindeutig. Darf ich müssen hier halt differenzieren zwischen Gräbern in Kirchen und Gräbern bei Kirchen. Das ist auch sagen, ja. Genau, ja. Dann darf ich noch mal... posso fare una Sie haben in einem halben Satz von Gruppen gesprochen, die vielleicht Fahrräder sein könnten, aufgrund der Beisetzungsmodalitäten. Als Nicht-Archäologe wäre die Frage an die Archäologen die, wie erkennt man in einem Gräberfeld Gruppen, die zusammengehörig sind, und welche Interpretationen, wenn es solche Gruppen gibt, bietet sich da an. Also mal ganz simpel, ich bin also ein völliger Ignorant auf dem Gebiet und frage also zunächst mal ganz simpel, aber auch zunächst eine simple Antwort, vielleicht kommt da ein bisschen mehr daraus. Lui chiedeva se c'è la possibilità e come si può riconoscere i gruppi, perché dice che tu hai detto, hai parlato prima probabilmente di fare. Sì, è una supposizione. Se si può, come si può riconoscere questi gruppi? Ma i gruppi si possono riconoscere perché sono sepolti molto distanti gli uni dagli altri. Premesso che questi cimiteri non sono stati scavati ancora integralmente, ma il trovare un gruppo come quello di Santo Stefano in Pertica, con sepolture molto molto ricche, c'era il capo, un nobile naturalmente, perché anche la famiglia, figli, tutti con croci, con bacili, eccetera. Il capo aveva qualcosa come 520 grammi di oro. Sono tanti. Poi a distanza di 700-800 metri al Gallo è stato trovato un altro gruppo, poi a altre distanze una o due tombe. Questo lascerebbe presumere, dato che non avevano problemi di costruzioni edilizie, quindi spazio ce n'era, lascia supporre che come in Pannonia potessero anche qui continuare queste sepolture, diciamo così, a gruppi familiari. Gruppi familiari, sì, ma è meglio che fare gruppi familiari. Gruppi familiari, fare una cosa un po'. Una cosa, sì, a gruppi familiari. Beh, lo stesso avviene però anche a Castelsosino, e anche non c'era Umbria, dove la disposizione delle tombe può essere raggruppata secondo gruppi familiari, anche per l'orientamento o magari per la sovrapposizione di un gruppo di tombe a un altro gruppo di tombe. Quanto alla organizzazione sociale, certamente una divisione stratigrafica, diciamo, la possiamo trovare nel fatto che i livelli delle tombe, o meglio del piano, del fondo della tomba, sono diversi. Ci sono tombe, chiamiamole così, superficiali, sugli 80 centimetri, un metro sotto il piano di campagna, e quelle sono in generale con pochissimo corredo o addirittura anche senza corredo. Ci sono tombe che vanno dagli 80 centimetri a un metro e 20 sotto i piani di campagna, che sono mezze ricche, diciamo, c'è del bronzo, qualche volta c'è anche dell'argento, e comunque c'è anche un corredo sufficientemente complesso di metallo e di cerame. Poi ci sono le tombe veramente ricche, e quelle arrivano da un metro e mezzo a due metri sotto il piano di campagna. Io questo l'ho rilevato parecchi anni fa, studiando studiando un particolare, e cioè quello del pugnale, l'esistenza del pugnale, che troviamo che si trovano in tante tombe, e pigliandomi il gusto di prendere le misure, partendo da una tomba proprio del Gallo a Cividale, la tomba di un bambino, che doveva essere sui 7, 8, 9 anni, perché aveva ancora la dentizione da latte e cominciava la dentizione da uomo, diciamo da adulto. col suo bravo pugnale. Ora, un bambino va bene, anche i nostri ragazzi, i nostri scouts vanno in giro col loro bravo pugnale, che non vogliono stare all'operare. Ma soprattutto tenete presente la serie di tutti i pugnali di cui io ero potuto venire a conoscenza. Ho visto che c'erano delle diversità, delle gradazioni. Ci sono dei pugnali di pochissimi centimetri, ci sono quelli dei bambini, ci sono dei pugnali che stanno con la lama tra i 12 e i 18 centimetri e sono generalmente nelle tombe femminili. Le donne portavano il pugnale, magari per ammazzare il marito, per il caso. Comunque l'avevano. Poi ci sono, c'è il modulo maggiore, che va dai 20 ai 35 centimetri, che sono i pugnali degli uomini. Ora, questo gioco del pugnale mi portava a ricercare se c'era un rapporto fra l'esistenza di questo pugnale, anche di bambino, per esempio proprio nella tomba di Perdica, il pugnale, il bambino, il ragazzetto, avuto forse 12-13 anni, ha tre pugnali di tre diverse grandezze. Cioè il pugnale si allunga a seconda dell'età. E quindi si può anche determinare in un certo senso questa situazione. Naturalmente era da tenere presente anche la profondità delle tombe, e così ho potuto determinare queste, credo di aver determinato questa stratigrafia, per cui le tombe ricche sono molto, molto basse, molto profonde, e si capisce perché si mettevano al riparo le salme dai tombaroli che ci sono stati evidentemente in tutti i tempi. Scavare 80 centimetri è una cosa relativamente rapida, scavare 2 metri è una cosa piuttosto difficile. Questo è quindi forse anche dal complesso e dalla profondità dello scavo della tomba si può determinare se ci sono delle stratigrafie anche sociali. La popolazione più ricca ha le tombe più fonde, la popolazione mediocre ha tombe intermedie, la popolazione povera ha tombe superficiali, perché tanto lì non c'era niente da rubare, non c'era niente da fare. Io credo che questo possa essere un elemento anche per avere una prova. Se si potrebbe anche fare una statistica, ma io questa non la faccio e non la farò mai, tra l'ambiente dei poveri e l'ambiente dei ricchi o dei mezzi ricchi. È un'ipotesi di lavoro che lancio volentieri ai giovani, perché io un lavoro simile non ho assolutamente, che non ho la possibilità più di farlo. C'è più bravo anche per me. Più bravo? Tu vuoi vielleicht quando kannst du dann studieren, die Adelsgräber, die Forschung über die sogenannten Adelsgräber. Oder vorsichtig die Forschung über die Gräber einer aristokratischen Oberschicht, vorsichtig. In der Archäologie steht ganz am Anfang, Herr Martin kann dazu noch auch etwas sagen, steht ganz am Anfang, weil bis vor nicht allzu langer Zeit, 15 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, die Archäologie sich entweder mit diesem Problem nicht beschäftigt hat oder, ich will es etwas ironisieren, je tiefer das Grab, desto reicher. Je mehr drin, desto reicher. Also statistisch. Das ist natürlich keine tragfähige Argumentationsbasis. Erst in den letzten Jahren ist die Diskussion in der Vor- und Frühgeschichte um dieses Problem entbrannt und zeigt, dass wir ganz am Anfang der Erklärung Phänomena stehen, die hinter dem Begriff Adelsgrab zu fassen sind. Ganz am Anfang. Das ist ein Bündel von Merkmalskombinationen, nicht Einzelmerkmale. Etwa das Grab von Mario Pozzi, das er gezeigt hat, hatte einen Goldfingerring. Der Rest war, wenn sie den Goldfingerring nicht hätten, ein Grab wie tausend andere auch. Jetzt hängt es von der Datierung des Grabes ab. Ist das 7. Jahrhundert, ist es 6. Jahrhundert? Akkulturationsvorgang eingebettet in die Adelsforschung. Oder in Café Drusino, ein Beispiel Café Drusino, können Sie in den ersten beiden Belegungsphasen sehr reiche Gräber finden. In der dritten Belegungsphase finden Sie Gräber, die nur noch goldene Körbchenurnen haben, zum Beispiel, und sonst nichts mehr, was nur die reichen Kriterien fährt. Das sind Dinge, Akkulturationsvorgang projiziert in den Zeitstellung der Gräber. Das heißt, die Adelsforschung in unserem Fach, nur die beiden Beispiele, steht ganz am Anfang. Wo wir sicher ansetzen können, wenn wir weiterarbeiten wollen, sind natürlich Maßstäbe. Feste, fixierte Maßstäbe. Königsgräber. Schildrichgrab, das Grab der fränkischen Prinzessin Anacundis, das sind Maßstäbe, an denen wir sicher messen können, weil wir die Identität der Personen kennen. Oder Anlasspunkte wären Trezzo oder Bernarin, von Herrn Martin kann dazu was sagen. Also kleine, sehr kleine Nekropolen, die nur reiche Gräber haben. Sodass wir auch hier fast eine Maßstabsebene haben, immer gemessen an den Königsgräbern. Aber mit anderen Worten, ich will hier schließen, mit der Adelsforschung stehen wir ganz am Anfang. Das additive Prinzip oder die Grabtiefen, so, das ist natürlich alles viel zu simpel. Dico, una era soltanto così, penso, un piccolo apporto a quanto ha chiesto il nostro collega per quanto riguarda la differenza tra i due etnici, come si può forse in qualche maniera evidenziare. Io penso che un certo apporto, un certo ausilio può darlo, almeno per la prima fase di occupazione, lo studio antropologico, lo studio antropometrico degli scheletri conservati nelle tombe. Io credo che questo ovviamente non è una risposta definitiva, sicura, però con un piccolo apporto, scusate, io credo per il primo periodo della presenza mongolo-tatara in Italia potrebbe essere dato da questo. Penso che senz'altro i colleghi svizzeri e tedeschi l'abbiano sempre fatto da sempre, in Italia credo che ben raramente si sia presa, diciamo, la briga di studiare e analizzare questi scheletri. Noi quello che stiamo facendo da quando abbiamo cominciato a interessarci dell'epoca e credo che qualcosa qualche risposta ci possa essere. Poi un'altra cosa, invece volevo chiedere al professor Birbrauer una precisazione, non so se ho ben capito, a proposito soprattutto dei rinvenimenti trentini, in particolare della Val d'Agri, mi sembra abbia fatto una differenza tra i siti di insediamento delle popolazioni, diciamo, locali e quelle longobarde. Non so se avete capito, mi sembra che lui dicesse che i longobardi stavano in una fascia di terreno più basso e le popolazioni locali più alte. Non so se avete capito, non ho capito male. E mi sembrava che a un certo momento avesse fatto un discorso sulla differenza di altitudine di presenza. Ecco, volevo chiedere un chiarimento, forse ho capito male. Ich habe mich falsch verstanden. Ich sagte, Romanen und Germanen siedeln sehr wohl in der Flussaue und an den Hängen. beide zusammen, aber die Romane zusätzlich noch in den Mittelgebirgskarakter. Also nicht Germanen, nicht Romanen oben, nein, nein. Ah, ja. Beides zusammen in den Augen, aber das Romanische geht in den Mittelgebirgskarakter. Ah, ja. Zusätzlich. Sì, perché appunto non mi risultava questa differenza, allora pensavo... Zusätzlich. No, io volevo soltanto dire due cose sui scheletri. Naturalmente si può fare parecchie cose con gli scheletri, specialmente quando si ha letto le pubblicazioni di ungheresi che non sono ancora controllabili per bene. Ma voglio dire una cosa, quando scavavo 6 anni fa, la piccola necropoli di Pettinara, che come Corredo è chiaramente una necropoli non longobarda, almeno da Corredo non abbiamo le armi, non abbiamo niente di simile, ma abbiamo materiale contemporaneo con i longobardi, anche cose che fino a poco tempo fa si pensava erano proprio longobardi, come resti di cinture di questo materiale. Prima di studiare questo materiale all'Università di Perugia, nell'Istituto di Patologia, mi hanno chiesto le pubblicazioni ungheresi, e nelle pubblicazioni ungheresi si può sempre leggere che i longobardi sono molto alti e che le donne longobarde nelle pubblicazioni ungheresi quasi non esistono, perché le donne sono sempre più piccole. Scrivono che i longobardi in genere erano sposati con i romanzi. Questa è naturalmente una cosa molto interessante. Dopo, quando è uscito il mio libro, perché io non avevo visto il manoscritto degli antropologi, ho trovato proprio le stesse notizie sul mio cimitero. Io avevo scritto che dal punto di vista archeologico si tratta sicuramente di un insieme di romanzo, e alla fine mi trovavo che tutti gli uomini erano longobardi perché erano lunghi e la popolazione femminile era romanza. Ho ancora un po' di dubbi. Quando si teneva le nostre conferenze a Nocera Uva, perché alla fine si è alzata una maestra e diceva: ma lei ha detto questo e lui ha detto questo, cosa devo dire ai miei allievi? E lui dica quello che vuole. Ich möchte eine Frage stellen. Es wurde vorher eben gesagt, die Schwierigkeit, langobardische Gräber zu bestimmen. Und da gibt es einmal die Vierfingertrachtung und die Waffenbeigabe. Könnte jemand jetzt mir sagen, spezifischer, was man unter der Waffenbeigabe verstehen muss, damit es ein langobardisches Grab ist? Im 6. oder 7. Jahrhundert? Darf ich antworten? Ja. Das ist das berühmte Problem, Max, du weißt, Arment in Gallien. Ist der Sachs, du weißt, worauf hinaus will. Ist ja, der? Ja. Aber wenn jetzt hier von Waffengräbern gesprochen wird, von langobardischen, was ist da drin? Also ich hatte in meiner Karte der langobardischen Gräber vorsichtshalber nur die Vierfiebeltracht und die Spaten aufgenommen, weil das Problem in Gallien ja auch aufgetaucht ist bei Arment. Ist der Sachs eine Waffenbeigabe oder ist der Sachs auch in romanischen Gräbern drin? Und in Gallien? Also die Karte zeigt, wenn Waffenbeigabe registriert ist, nur die Spanien. In meiner Karte, also ja. Weil ich vorsichtig sein wollte. Ja, das Problem des Sachs auf die beiden Ethnika bezogen ist in der Archäologie ungeklärt. In Gallien haben Kollegen des Ägypten, du weißt das ähnlich, ist der Sachs, also das Hiebschwert, das einschneidige Hiebschwert, wir wissen im Moment nicht, wie der Sachs ethnisch zu bewerten ist. Die Sparta ist offenbar klar, weil sie immer im Verbund auch mit anderen Merkmalen vorkommt, in germanischen Nekropolen, in sicher germanischen Nekropolen. Mit dem Sachs, Herr Arment ist auch darüber gestolpert, Herr Arment meint heute mittlerweile, der Sachs ist auch fällt als ethnisches Kriterium weg. In meinen Karten waren nur die Sparta-Gräber drin, vorsichtshalber. Ja, ich hab ja damals bei der Parava Milano, l'ho pubblicato anche diverse volte, di questo strano fenomeno che i Sachs nell'Italia centrale sono molto rari ancora, naturalmente può essere una lacuna. Castelbosino e Nocera Uva in questi due necropoli contengono tutte le tombe maschili ben attrezzate, sempre la Sparta ma quasi mai il Sachs. E io da Pettinara con la mia e le mie idee di Pettinara sono partito dalla necropoli di Nocera Uva che ha una distanza di 2,5 km. Si può vedere da una necropoli all'altra E lì c'è quella grandissima differenza che non si può dire che si tratta di almeno perché abbiamo anche i trovamenti del Brillo, quando c'era l'altra necropoli, non può essere la stessa popolazione per questa ragione, se no non l'avrei mai detto. Ma lì abbiamo le fibole a croce, abbiamo uno stilo, abbiamo una mina semplice, è tutta roba che in genere si trova nelle necropoli proprio autoctone. Io mi permettete, tanto per... A proposito degli studi antropologici ungheresi, quando il dottor Chisseli, che tutti conosciamo dell'equipe di Bona, venne a Cividale, era convinto, ad esempio, che mia moglie fosse una discendente dei Longobardi di Foro Giulio. Allora io dissi, guarda che non è friulano, non è cividalese, è umbra. Allora è del Ducato Spoletino. Ich wollte nur grundsätzlich eigentlich die Frage doch nochmal aufnehmen der anthropologischen Untersuchung. Es wird ja ein großer Aufwand damit getrieben. Und was kann man denn außer Altersangaben, vielleicht halbwegs sicherer Geschlechtsbestimmung, was kann man denn noch sonst mit dieser anthropologischen Aussage anfangen als Archäologe? Das ist das Beantwortung. Ja, wäre das jetzt die biochemische Methode? Es gibt Fragen. Egal, was ist möglich? Es gibt die traditionelle, dass der Anthropologe der Meinung ist, er kann hier Populationen im Idealfall scheiden. Nur, das Problem ist, den Anthropologen fehlt in der Regel eine gesicherte Erfahrungsbasis mit einem ausreichend quantitativ, statistisch ausreichenden, romanisch, archäologisch gesicherten romanischen Material. Langobarden oder auch Bajuwaren, Franken sind zu Tausenden untersucht. Sicher romanische Skelettserien gibt es kaum. Das heißt, die Anthropologie steht auf dem Sektor der Romanenforschung ganz am Anfang. Also in dem Punkt, wo der Anthropologe von Romanen spricht, Vorsicht, weil er hier am Anfang eines neuen Forschungsgebietes steht. Er hat nicht genügend Skelettserien der Romanen bislang untersucht. Das Zweite, das Biochemische, was Herr Martin ansprach, ist eine tolle Sache, wenn sie stimmt. In Budapest gibt es seit 15 Jahren ein Laboratorium, das unter Ausschluss der internationalen Öffentlichkeit arbeitet. Die Methoden dieses Laboratoriums sind im Westen nicht publiziert. Westliche Kollegen haben diese Methoden nie gesehen. Das ist Herr Kisseli mit seiner Gruppe. Man glaubt dort, das ist im Zusammenhang mit Pona, man glaubt dort durch chemische Untersuchungen feststellen zu können, wie die Ernährungslage dieser Leute war. Auf gut Deutsch, und so war das Ergebnis in Pannonien, die Langobarden, die sicher ethnisch durch die Beigaben klassifizierten Langobarden, die haben die Schnitzel gegessen und Fleisch opulent gegessen, und die sogenannten Romanen in Pannonien, nach Aussage dieser Untersuchung des Budapester Laboratoriums, sind unterernährt, die haben den Grießbrei, den Reisbrei gegessen. Aber diese Methoden, wenn sie stimmen, wären sie toll, aber diese Methoden sind im Westen nie überprüft worden und es war auch nie möglich, vom Westen her diese zu überprüfen. Ja, das ist nicht ganz komplett. Es ist so, diese Untersuchung macht nicht der Kisseli, der versteht davon nichts. Ja. Er ist klassischer Anthropologe. Ja. Und das macht dann ja doch Lindier. Ja, verzeih, ich wollte Ihnen nicht verzeihen. Ja. Und es ist so, es wird also nicht nur die Ernährungsweise bestimmt, sondern mit 2 bis 3 Gramm Knochen des Skeletts bestimmt man das Geschlecht, das Alter, in dem der verstorben ist, Ernährungsweise, das wäre die Qualität, und als viertes, also nicht das letzte sein, nicht die Blutgruppe des Toten. Und die Methoden sind von Herrn Lindier alle publiziert in internationalen Zeitschriften. Und Herr Lindier hat vom Basel-Berner Ring, Gräberfeld, alle Skelette untersucht, ohne dass er die Nummern der Gräberkunde, also mit einem Code versehen. Die Resultate von Herrn Lengel stimmen mit denen des normalen Anthropologen, der in Basel das Lebensalter, Todesalter und das Geschlecht bestimmt hat. Er kann nicht die Blutgruppe machen, der klassische Anthropologe, exakt überein. Es ist nur so, die ganze Untersuchung ist, konnte nicht in mein Buch aufgenommen werden, weil die Proben am Zoll, am Übertritt offenbar vermischt worden waren. Das heißt, ich habe vom Buchabschluss, es sind 6 Männer zwischen 50 und 60, 4 Männer und 40, dann 3 Jüngere etc. Ich habe es nur en bloc und es stimmt en bloc mit dem von Basel überein. Das heißt, auf dem Einzelnen stimmt es, aber wir können es nicht mehr zuweisen. Die Gräber. Aber ich glaube, dass diese Methode stimmt. Und die, was, Entschuldigung, jetzt weiter fragen, die Blutgruppenfrage, was sagen Sie, die ergeben? Also die Ergebnisse der. Achso, das ist nicht. Auch haben wir natürlich dann als erstes den Code, da haben Sie einen Schlüssel und dann bin ich auf dem Darm mit den Blutgruppen, da habe ich gedacht, so, wie ist jetzt das? Und dann habe ich gesehen, dass man da bei mehreren Skeletten eben da etwas vertauscht hat. Wir haben die Nummern, den Code nicht auf die Knochen geschrieben. Das wurde uns angeraten, damit der Knochen nicht frei bleibt. Und dann haben die natürlich als Wunder, Fitz haben die da die Schaften aufgemacht und dann das durcheinander. Aber also, das ist sehr schade, denn man hätte möglichst schnell das nochmals machen müssen, das war aber damals, ging das nicht. Aber es ist also eine der besten Beweisstücke, dass diese Methode richtig ist, meine ich. Professor De Rogo, die Berlin von portare qualche elemento di conoscenza, spezzare una lancia in favore, cioè in difesa degli scavi su sepolcreti alto medievali. L'Università di Salerno negli ultimi anni ha scavato 3 sepolcreti che sono collocabili tra il V, VI e il VII secolo e sono situati naturalmente nel territorio salernitano. E sono sepolcreti che hanno le caratteristiche che il professor Brozzi ha illustrato dei sepolcreti di autoctoni, quindi non cimiteri di elementi romanici. Soprattutto uno che è situato nella piana del Sele è molto importante, mi pare, sia per il numero delle sepolture, che sono sepolture appunto in fosse rivestite di lastre, ricoperte di lastre, sia per i correi bianche, che sono estremamente poveri, naturalmente si è trovata qualche fibula con decorazione di animali, ma sono interessanti perché molte tombe avevano depositi di piccole anfore, cioè piccoli oggetti ceramici, con decorazione caratteristica, bande rosse, associati con monete bizantine o di tipo bizantino, comunque chiamate la prima metà del VII secolo. E direi che questi sono elementi che possono rendere il campo dell'informazione relativamente proprio a questa fisionomia culturale, perlomeno, dei non longobardi. Tra l'altro non ci sono nelle vicinanze sospetti neanche di cimiteri longobardi, di nazione, diciamo, né dal punto di vista antropomastico, né dal punto di vista storico che si è potuto vedere con la rivoluzione. Questo tra l'altro introduce una richiesta di così precisazione che farei. Mi è sembrato nella mappa che è stata circolare che in realtà non ci sia una grande frequenza di sepolcreti longobardi e sepolcreti romanici vicini. Mi sembra che nella tua mappa sia certamente in minoranza in caso di giusta posizione. Ma come diceva Essen, sono soltanto dei frammenti quelli che noi troviamo, frammenti nel senso o di oggetti sporadici o di tombe mal scavate, ma che devono essere segnalate. Quindi il cerchietto non vuol dire che lì c'era una popolazione o un gruppo romano, no? E la tomba longobarda trovata vicino non può dirci che ci sia stato un altro gruppo, se no noi facciamo uno scavo più generale in modo da vedere se questo corrisponde a quella che può essere una supposizione soltanto in via di ipotesi. Sì, no, ma se posso io dire, sì. Io almeno in quanto so, i longobardi dalla parte lì non sono stati mai trovati, non è mai stato trovato un cimitero longobardo, per quello sarà difficile di dire se sono divisi o no, ma abbiamo soltanto Benevento con un cimitero distrutto, sì, che era sicuramente longobardo, ma lì c'è pochissimo, anche con le caratteristiche armi, che è quello che ha pubblicato i Bottilli, ma lì abbiamo neanche una tomba intera, e poi dal resto, almeno a me non risulta che mai stato trovato qualcosa di sicuro. È stato trovato tombe longobarde a Matera, effettivamente, scavi che sono fatti... Ma se non sono ancora, dovrei vedere il materiale. Comunque qualche possibilità di confronto, quindi c'è. Ma volevo poi anche fare un discorso di natura generale, dato che hai concluso la tua relazione, tra l'altro così bella e affascinante, con un lamento, diciamo, sulle condizioni dell'archeologia medievale in Italia, e questo riguarda quindi non romani e germani, ma solo romani in questo caso. E direi che, mentre sono d'accordo su come è cominciata male l'archeologia medievale in Italia, sulle prospettive non più rose degli inizi, direi che sarei molto preoccupato di determinare delle priorità o delle preferenze nei settori di interesse di questa istituenda archeologia medievale in Italia. In questo caso vado contro l'oggetto stesso di questi lavori, dicendo che non credo che si possa indicare come settore privilegiato l'archeologia germanica, così come non credo che si possa indicare l'archeologia cristiana come settore eminente della ricerca archeologica medievistica, perché se no creiamo veramente delle gravi distorsioni anche metodologiche. L'archeologia sul terreno deve essere il recupero dei depositi culturali sul terreno, tutti quelli che ci sono, e non è possibile stabilire delle linee di tendenza o di priorità o di caratterizzazione di questa archeologia che faticosamente si cerca di mettere in piedi. Questo verrei a dirlo perché appunto mi pare che sennò gli equivoci si sommano, mentre sono persuaso che ciascun archeologo, poi ciascun ricercatore sceglierà naturalmente i suoi materiali e sceglierà la sua specializzazione, l'archeologia medievale deve nascere libera, diciamo, con la massima possibilità di applicarsi a un studio estremamente vasto, estremamente complesso, come quello dei depositi medievali nel territorio italiano, che per di più sono depositi di epoca storica e non di epoca preistorica o protostorica. Un momento, ma vorrei rispondere. Io non ho, mi pare, detto che l'archeologia altomedievale deve avere un'importanza primaria nei confronti di quella classica o qualcosa del genere. Ho lamentato soltanto in interventi quando si può scavare in un dato posto e i soldi non vengono perché ancora si pensa che siano cose marginali. Volevo rispondere direttamente a questo. Ah, De Logo. Sì, a De Logo. Volevo dire a De Logo, io sono d'accordo completamente con lei, soltanto quello che si voleva dire prima, e questo dico un'altra volta, l'archeologia medievale è l'altra medievale più intera, deve nascere ma non deve essere depressa, e questa è la piccola differenza. Non deve essere? Depressa, depressa. E che poi non succedono fatti come ultimamente ad Aquileia per esempio stavano scavando per le fondazioni della caserma dei carabinieri e sono andati su un mosaico romano naturalmente. Andai ad Aquileia per altre questioni e la dottoressa Bertacchi mi portò a vedere questo mosaico. E io ho chiesto se nella stratigrafia aveva considerato anche la parte precedente alla romana, che potrebbe essere stata quella alto medievale. Risposta: a me non interessa. Io lamento questo, te lo dico, non il fatto che debba essere primaria o meno, a parte poi che i germani a un certo momento diventano italici anche loro e fanno parte della nostra storia e ne condividono le buone e le cattive sorti con gli autoctoni. Scusi, ma scusate un momento, deve il professor Rialmo. Ich wollte die Archäologen nur warnen, anthropologische Kriterien allzu viel Gewicht beizumessen. Herr Bierbauer hat es von der einen Seite eher getan, indem er sagt, es fehlt das romanische Vergleichsmaterial. Im konkreten Fall der Langobarden erscheinen mir derartige Untersuchungen, ich will es mal überspitzt formulieren, sogar sinnlos zu sein. Als eines der wenigen Völker, das uns eine ausgeprägte Origo hinterlassen hat, betonen die Langobarden an vielen Stellen dieser Origo, die als Origo überliefert ist und zum Teil rekonstruierbar ist aus dem, was uns Paulus Diakonus überliefert, betonen Langobarden an mehreren Stellen, dass sie immer wieder neue ethnische Zusammensetzungen, etwa durch Sklavenfreilassung schufen, durch Aufnahme fremder Krieger schufen und so weiter. Wie kaum ein anderes Volk haben die Langobarden eine sehr entwickelte Gesetzgebung über Sklavenfreilassung. Das heißt, die Möglichkeiten aus den untersten Unterschichten in Schichten der Krieger aufzusteigen, sind hier in juristischer Weise, in sehr vielfältiger juristischer Weise geregelt. Das heißt, die historischen Befunde deuten darauf hin, dass eine Vorstellung vom großen, blonden, starken, bei mir auch noch schönen Langobarden als dem Regelmann und der entsprechenden Dame, als der Regelfrau wohl an der Realität vorbeigehen dürfte. Das erscheint mir als ein Hinweis, ein wichtiger Hinweis zu sein, dass man hier nicht allzu viel, ganz konkret im Fall der Langobarden, zu erwarten hat. Das mag bei anderen, ich bin ganz vorsichtig, bei anderen germanischen Völkern vielleicht anders sein. Bei den Langobarden erwarte ich mir in dieser Hinsicht überhaupt nichts. Ja, das wird ja wahrscheinlich demnächst durch diese Arbeit von Giseli, wo er die Maße ja veröffentlicht wird von den ganzen Themen, er hat ja ziemlich alle in Niederösterreich und Wallonien aufgenommen, wird das vielleicht, wird dabei vielleicht was herauskommen, das ist möglich. Also, das muss man auch das muss man abwarten, die Skepsis würde ich so nicht teilen. Ja, aber da muss man die Statistik nicht abwarten. Ich meine, da kann man natürlich mit Statistik irgendwie arbeiten. Aber ich wollte zu einem Logo etwas sagen. Mit den romanischen und germanischen Fundplätzen. Wenn ich es recht verstanden habe, haben Sie doch eingangs gesagt, die liegen kaum beieinander. Ja. Das mag in Süditalien der Fall sein, in Mittelitalien, weil wir haben ja dort, Sie haben ja die Karte gesehen, haben ja kaum langobardische. Ja, das habe ich schon gesagt. Im Trentino liegen romanische und germanische Nekropolen in derselben Gemarkung 80, 100, 200 Meter auseinander. Da, wo Sie ausreichend Fundmaterial haben, sehen Sie das ganz dicht nebeneinander in derselben Gemarkung. Natürlich, in Mittelitalien geht es nicht, aber wenn ich sage. Aber der Abstand zwischen den beiden Gruppen gegraben. Nee, das ist ja nicht gut. Immer da ausgraben. Dann stehen wir uns zusammen. Cari amici, adesso, se non mi sbaglio, è un'ora e mezza che state discutendo. E io credo che a un certo momento si debba usare la ghigliottina, non per tagliare la testa ai cari amici e colleghi, ma perché bisogna avere un momento di ripensamento su tutto quello che è stato detto. E il ripensamento poi potrebbe anche essere una colazione di lavoro. Le colazioni di lavoro sono fatte proprio per ripensare, per ridiscutere magari con una distensione spirituale che è determinata anche dalla vita. Quindi se non avete ancora interventi da fare, vorrei farne uno io piccolo, e poi mi taglio la lingua. Domando a tutti gli archeologi, perché io non lo sono e queste cose non le posso sapere. Nelle tombe troviamo la lancia, quando la troviamo, con diversa posizione, o col ferro vicino alla testa, cioè la lancia è teoricamente è impugnata e il resto. In resto quasi, oppure con la lancia e il ferro della lancia ai piedi, e sarebbe invece tenuta a getto. C'è una possibilità di distinguere un costume nel seppellire in questa diversità della lancia? Io non lo so. Bisognerebbe fare una ricerca capillare per vedere che cosa c'è. Astia mi sa rispondere. No, io non so rispondere perché devo dire che non l'ho controllato, ma e non è stato fatto almeno in Italia una ricerca di questo modo finora, ma posso dire tranquillamente che sicuramente il 90%, forse anche di più, la lancia sta vicino alla testa. E da qualche cosa. È una costume che è portata da Pannonia, anche Pannonia noi troviamo la stessa. Appunto. Ma che indichi l'appartenenza a gruppi diversi dove c'è questo costume di mettere la lancia in un senso piuttosto generale? Un fatto, è trovato così. Lo so, è la stessa cosa se la spada è attaccata alla cintura e al morto o se la spada sta accanto al morto. Abbiamo anche questi fatti. Abbiamo la spada sinistra a destra. Quello della spada dipende dall'individuo stesso. Ma quello che direi della spada è possibile da spiegare, perché nel disfacimento del cadavere la spada scivola o da una parte o dall'altra, secondo certi movimenti del terreno. In generale è sì, sulla... Sì, no, ma ci sono anche le spade che sono staccate dal scheletro con la cintura avvolta e... Anche questo è appunto cercare di individuare il perché. Come tutti i bambini io chiedo perché si fa questo, che evidentemente è una forma rituale. Anche questo, per cui quell'oggetto deve essere messo in un modo piuttosto che in un altro. Se noi pensiamo per esempio al ritratto di quel dignitario, sarà probabilmente un conte, che è dipinto a Mannes, in San Benedetto di Mannes, e la spada è tenuta sul petto, il ritratto è quello evidentemente di un morto, anche se ha gli occhi aperti, perché un vivo non porterà mai la spada così, ma la porta sempre al fianco. Non è detto, ci sono anche, ci sono Ma la spada quando uno è vivo non se la fa. Ma probabilmente è un gesto da parata o qualcosa del genere. Appunto il povero Cagiano diceva, ma quello lì dovrebbe essere proprio il ritratto di un morto con gli occhi aperti, però, per far vedere che è vivo, perché la spada è messa sul petto fino alle cosce, fino alle ginocchia, non è un oggetto naturale. Ecco, Conti, adesso ho detto tutto. Può essere vero, però direi ancora una volta che è la vita contemporanea che ci può suggerire una soluzione di un gesto apparentemente incongruo. Siccome la sciabola ormai è un oggetto di pura parata e nessuno la sa più usare, Avrete notato che molto spesso gli ufficiali con noncuranza e sciatteria portano la sciabola come fosse l'ombrello, così. Anziché uno prende il regolamento con la lenza rivolta lì dietro, come si dovrebbe fare. E allora si riparavano la pioggia con la sciabola, direi di no. Anziché che fa un po' di male. Quindi può darsi che questo fosse in una posizione. Magari ci sarebbe da chiedersi perché il pittore l'abbia voluto rappresentare proprio, è un altro problema. Gli mancava lo spazio per metterla da una parte. No, anche questo può essere. Ma che ricordo anch'io come Otto, la spada tenuta in maniera incongrua, forse accidentale, poi può essere un gesto di parata. Che noi non conosciamo più, ma non darei come del resto, no, venendo al serio, il fatto che la spada sia posata accanto o sia messa alla cintura potrebbero essere particolari macabri, ma bisogna anche vedere più la manualità dell'inumazione. Non dico che se lo sono dimenticato, ma a un certo punto, ad esempio, quando è intervenuta, scusate, è un particolare che capisco possa a qualcuno dispiacere, quando è intervenuta la rigidità cadaverica, vestire uno è un problema terribile, fino a che quindi potrebbe essere in ipotesi, supposto che ormai il morto è irrigidito, non si può aspettare però, specie d'estate, per ovvie ragioni che torni ad essere, diciamo, plastico, e allora si è messa la spada accanto piuttosto che alla cintura. Credo che, tanto più che, io non sono un archeologo, è ben chiaro, tanto più che mi pare che l'incidenza statistica di queste cose sia modestissima, posto che si possa fare una statistica, sia modestissima, così come la lancia in alto, la lancia in basso. Può darsi anche che, certo, predomina la lancia in alto, la lancia in basso può essere un effetto di ignoranza, che i numatori che non sapevano quali fossero le esatte costruzioni, o perché ormai se ne, di padre in figlio non se ne erano più sufficientemente tramandati, hanno buttato lì la lancia quasi come veniva, cioè gliel'hanno messa accanto, forse senza una ritualità. Ma nella vita in genere la lancia veniva portata con la lama in su, e tutte le rappresentazioni sono così, e così è anche quasi sempre nella tomba. Sì, però qualche lancia in più si trova. Alcuni esempi, ma è una domanda. Generalmente portiamo lo schioppo, io no. Sono caduto sulla via della masca a caccia, non ci vado più da 3 anni. Portiamo lo schioppo, non soltanto quello da guerra, anche quello da caccia, scarico a canne in alto. Viene un di meno qualcuno che lo porta, scarico a canne in basso. Allora, statisticamente predominano quelli a canne in alto, però ci sono anche quelli a canne in basso. Non credo si possa dire che tra i cacciatori a canne in alto e i cacciatori a canne in basso si debba fare una distinzione sociologica, tipologica, concettuale, religiosa o d'altro. Dici solo di nuovo delle cose che diventano molto più significativi, perché mi ricordo ai funerali del re, del popolo della Grecia.